È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Siamo tornati, caro David, siamo tornati, siamo tornati. Eccoci. Dove sei? Dove sei? Manchi solo tu qui a Vedrò, da Enrico Letta, manchi solo tu in Trentino. Vedrò, ma domani arriverò. Primo messaggio a pagamento: se sei coinvolto in uno scandalo sessuale, chiama subito Nicolò Ghedini, lui negherà tutto. Perché? A cosa ti riferisci? Alla vicenda della signora Began, per caso? No, non lo so, questo è un messaggio a pagamento che ogni tanto ci sarà nel corso della puntata. Tu lo fai per sviare da una questione centrale. La questione centrale è perché Parenzo non è qui presente in Trentino. Tutti si interrogano e anche gli ascoltatori della Zanzara si aspettavano Parenzo presente in studio. Però lasciamo perdere. La prima punturina della... aperto un'inchiesta su questo, Ingroia. Esatto, la prima punturina della serata, la prima punturina la diamo al ministro della salute, il signor Balduzzi, che con la scusa della salute ci vuole rifilare un'altra tassa, no. Un'altra tassa, un'altra tassa, un'altra tassa. Abbiamo la tassa, capito, sulle bibite, abbiamo capito, lo so, però sono incazzato, scusami se lo dico, ma sono incazzato perché io quando sento che un ministro, poi spero che il governo, come al solito, questo succedeva nei governi politici ma succede anche con i governi tecnici, sparano la cosa, poi alla fine c'è il consiglio dei ministri e poi non esce nulla, spero che sia così. Il ministro Balduzzi dice bisogna mettere la tassa sulle bibite gassate, sulle bibite dolci, e lo faccio per la vostra salute. Ma questo è lo stato etico, decido io cosa comprare, se ti comprare una cosa che fa male o una cosa che non fa male, perché me la devi fare pagare di più? Però, già c'è, sai, la questione. Dimmi. La paghi di più, voglio dire, cioè, anche negli Stati Uniti alcune bibite, quelle che fanno ingrassare, fanno diventare fat, grasso e ciccione, perché i grassi e ciccioni negli Stati Uniti sono un costo per la sanità, e sono un costo, e quindi ti fanno pagare di più alcune cose che loro. Anche se la facessero in qualche stato americano, a me non mi interessa, non è che fanno tutto quello che fanno negli Stati Uniti, è giusto. Comunque, sentiamo Balduzzi, prima punturina da parte mia, è punturina quella proprio grossa però, no punturina, punturona. Sono 3 centesimi a bottiglietta, un sacrificio modesto da parte di ciascuno, è qualcosa che non va a toccare in modo significativo la filiera produttiva, però ci sarebbe certamente anche una possibilità di destinare risorse significative proprio all'assistenza sanitaria. Risorse significative all'assistenza sanitaria? Ma di cosa parliamo, Balduzzi? Amico mio, Balduzzi, non mi fare iniziare questa nuova stagione della Zanzara incazzato come una bestia, non mi fare iniziare così. Ci ma sono diverse tu frasi. Bibite gasate, non ho capito. Io le bevo, diciamo di no, io bevo solo cose zero. Così sulle bibite bevo gasate. Solo cose zero, però mi fa arrabbiare il fatto che per trovare i soldi debbano mettere sempre una tassa. Il principio già è sbagliato. Anche in più penso che mettere la tassa sulle bibite gassate o dolcificanti perché fa male è una roba da stato etico, ma lasciamo perdere. È più curiosa però la risposta di un esponente del PDL, il signor Gasparri, questa è buona, che dice bisogna incoraggiare il consumo di frutta e di succhi al 100% di frutta. Gasparri, non ti addentrare in queste cose, basta dire semplicemente mettere la tassa sulle bibite è una cazzata, punto, e basta. Gasparri vegano. Bene, come vi siete accorti, credo che ve ne siete accorti, siamo tornati, 800 24 00 24, vi piaccia o no, la Zanzara è questa e non ce ne sono altre. C'è una bellissima battuta della Pausa Caffè, il PDL contro la tassa sulle bibite gassate, strizzando un occhio alla Lega, da sempre contraria alla tassa sui rutti, non è male questa qua, non è male. Punturina anche per Bossi, senti cosa ha detto nel fine settimana, bisogna fare una scuola di baguette in via Bellerio. Sai che cos'è la baguette? Il baguette, io non so, questi linguaggi non li conosco, queste lingue straniere non le conosco, io conosco solo l'italiano, a stento diciamo. No, è la cornamusa bergamasca, senti, punturina. La cornatura della Io ho un baguette, ce l'ho a casa, però nessuno dei miei figli lo sa suonare. Suonano il pianoforte, logicamente, la chitarra. solo il baguette, bisogna, diciamo, che si faccia una scuola raggiungibile, magari a Milano, nella sede centrale della Lega, là c'è spazio per fare una scuola di baguette, di cornamusa, diciamo padana. La scuola di cornamusa padana, di cornamusa bergamasca, è straordinaria. Senti questa cosa, padanizzare il sud... No, ma questo era Parenzo, non era Bossi, non è possibile. No, era Bossi, ti assicuro, non era Parenzo. Padanizzare il sud, tempo sprecato, non fanno un cazzo. Qualcuno anche nella Lega pensa che si possa padanizzare il sud, tempo sprecato. Io non credo che si possa padanizzare il sud. Penso che dobbiamo andarci per la nostra terra, fuori dalle scatole. E così quando si vive in un paese in cui metà lavoro e metà fa un cazzo. La teoria di Bossi è che nella metà di un paese si lavora, nell'altra metà non si fa un cazzo. Calderoli, la Fornero fa girare i coglioni, sentite. Sentire la Fornero l'altro ieri dire che bisogna ridurre il costo del lavoro quando la riforma del mercato targata Fornero ha aumentato il costo del lavoro 2 mesi fa, è una cosa che fa girare i coglioni. L'automobile in scontro sulla pista Luna Park, l'hai guidata come un pazzo tra scossoni e pataflac. Riceviamo i primi messaggi, caro Parenzo, dal nostro ritorno. Ma che schifo, c'è ancora quel finocchio di Parenzo. Si stava meglio senza di voi, ci stava meglio quando si stava peggio. Purtroppo è tornato Cruciani, cambio stazione radio. Siamo in tanti, addio Erwin da Belluno, il quale però scrive il messaggio. Si prende la briga di scrivere il messaggio. Vi abbracciamo. Finocchio la Began ha perso il bambino. Detto, naturalmente, in questo caso con grande rispetto. Sempre che la notizia sia vera, Sempre che la notizia sia vera. Ha perso il bambino. Ghedini è già sentito, quindi. Tutta la saga della signora Began, lo ricordiamo ancora una volta, è iniziata non in questi studi, perché ci troviamo a Vedrò, in Trentino, per la ripresa della Zanzara, ma è iniziata negli studi di Roma. Sarei la donna più felice del mondo con un figlio di Berlusconi. Il suo sogno è ancora in corso? Quale? Quello con Berlusconi? Di fare un bambino, di avere un figlio. Se lui mi regalasse un bambino, sarei la donna più felice del mondo. Una bicicletta nuova, ti ho comprato però tu. Vogliamo fare una punturina anche a Formigoni? Che dici? Beh, ormai David. Ormai Formigoni ne capita una al giorno, porello. Berlusconi si ricandida? Beh, le possibilità sono alte, più del 50%. Sentiamo. Dovessi dire oggi lei quanto la dà probabile la candidatura di Berlusconi? Beh, io credo che sia più probabile che improbabile. Più probabile che improbabile. Più del 50%. Più del 50% e che Berlusconi condurrà una campagna elettorale di grande dispendio personale, di grande impegno. Si sta preparando, dice Formigoni, con diete e corse. Si sta preparando anche dal punto di vista fisico con la famosa dieta, con le famose corse, si sta preparando ma non ha ancora deciso e è una, diciamo, è una valutazione che si riserva di fare nell'autunno. Scannano all'interno della sinistra, chiamiamola così, tra Italia dei Valori, Beppe Grillo e Bersani, come sapete, come gli attenti ascoltatori della Zanzara sanno. Io dico solo una cosa su questo scannamento all'interno degli anti-berlusconiani. Dico solo una cosa, quando c'era la guerra al cosiddetto psiconano, così lo chiamava Grillo, lo chiama ancora Grillo, per il Partito Democratico, per una parte consistente del Partito Democratico, sono andati bene anche Grillo, anche Di Pietro, questa è la realtà. Finché c'era Berlusconi andavano bene tutti, purché si sparasse su Berlusconi. Questa è la realtà è questa. No, vabbè, sentiamo Bersani, è così. Sentiamo pure Bersani. A difendere Grillo. No, non mi metto a difendere Grillo. Grillo è sempre lo stesso. Dico che quando c'era da fare la guerra a Berlusconi andava bene anche Grillo, andava bene anche... Quello diceva le sue cose, ma non è andato mai bene. No, ma molti lo vellicavano. Adesso che invece bisogna conquistarsi gli elettori e quello vuole prendere gli elettori da quella parte, si ammazzano tra di loro. Sentiamo Bersani. Io vedo anche rivolto al nostro partito, voglio dirlo da qui, correre sulla rete dei linguaggi del tipo siete degli zombie, siete dei cadaveri ambulanti, vi seppelliremo vivi, sono linguaggi fascisti. e a noi non ci impressionano, non ci impressionano, vengano a dircelo, vengano qui a dircelo. Via dalla rete, venite qui a dircelo. Bene, abbiamo il traffico. Poi addirittura Grillo l'ha chiamato anche Gargamella, ricordando i Puffi. Traffico, poi un ospite, un grande ospite, un governatore di regione, mica l'ultimo agli arrivati, cioè un governatore di regione. Chissà chi è, caro Parenzo, state a indovinare, dato che non sei voluto venire qui a Bedrò. E adesso no, non ti ho nemmeno detto gli ospiti che ci sono. Bene, bene, 800 24 00 24, siamo tornati e beh, insomma, si sente anche dai messaggi che riceviamo. Sapete che questo mese è stato davvero tranquillo, serio, interessante, ma ammetto che voi cazzoni, buffoni, casinisti, inutili, rovina famiglie, mi siete mancati, va bene. Abbiamo un governatore, tu sai chi è il governatore della Campania, Parenzo? Il governatore della Campania, De Magistris? Ah no, quello è il sindaco di Napoli. Ma che c'è, quello è il sindaco di Napoli, è il sindaco di Napoli, no, De Magistris. Aspetta un attimo, spolverami un attimo, perché ho fatto non ho fatto vacanze quest'anno, spolvera un attimo. No, ma sei impreparato, è un ex socialista, cioè anzi un socialista, perché uno che è stato socialista non è che è sempre socialista, rimane sempre socialista. Te lo ricordi? Lo sai chi è il governatore della Campania? Adesso non mi... lo sai. Stefano Caldoro, buonasera. Buonasera, governatore. Buonasera a tutti. Hai fatto bene a richiamarlo, era tanto che non si vedeva in giro, hai fatto benissimo. Certo, uno fa il governatore della Campania, non è che fa il giramondo. Ma quando dico che fai le cose bene, hai fatto bene a dare. Ma no, perché se uno non fa delle dichiarazioni, eccetera. Ma da quando eri in giro? Perché si ricorda di me da quando eri in giro? Quando? Sì, si ricorda magari quando eri in Parlamento, capito? Sì, si ricorda quando eri in Parlamento. Vabbè, comunque, Stefano Caldoro, buongiorno. Mi ricordo tutto di Caldoro. Ah, con Cosentino, ti ricordi la grande guerra Cosentino-Caldoro? Ma quella è roba passata, giusto, Caldoro? Passatissima, no? Beh, sono passati anni ormai. Beh, anni, insomma. Non se lo ricordava neanche il nostro... Senta, però, c'ho una curiosità. Ma quel famoso dossier, no? Quel famoso dossier di Cosentino, lei disse, non è finita qui, il famoso dossier in cui lei si diceva che frequentava cose tutte false, naturalmente, che frequentava transessuali e cose di questo tipo. Che fine ha fatto quella cosa lì? Lei non è andato fino in fondo contro Cosentino su quella roba? No, ma tra l'altro, io dico, bisogna ancora trovare chi sono i veri mandanti. Sì. Ci sono due inchieste della magistratura, una a Roma e una a Napoli, quella di Roma si è conclusa, la prima parte, Napoli ancora aperta, ma quindi attendiamo. Alla fine, ma non io ho sempre detto, lo dico apertamente, non credo che vengano dal PDL. Cioè non è stato Cosentino? Non vengono dal PDL. Non vengono, dunque Cosentino non è stato? Ma lui è stato parte di questo processo, ma non è tra i mandanti, credo che i mandanti siano fuori al Popolo della Libertà. Però lui ne ha approfittato, diciamo, possiamo dire così. Questo dovranno poi determinare gli organi. Io non penso, sono un garantista e rimango tale. Ha detto parte di questo processo, qualche ruolo l'avrà perché avuto. Perché chiaramente è parte del processo. Io comunque dico, sono costituito parte civile, quindi attendo, voglio dire... La magistratura. Senta, ma a proposito, lei, se ci fosse un gioco della torre, no? Mm-hmm. Famoso gioco della torre. Da una parte c'è De Magistris, dall'altra parte Cosentino. Chi butta giù? Ma De Magistris non lo posso buttare giù perché il sindaco di Napoli farei un danno alla città. Cosentino. No, teniamo tutti e due. No, qui il gioco della torre bisogna scegliere, governatore. Qui, ma oggi Cosentino ha una responsabilità limitata. Può stare anche giù dalla torre. Lo buttiamo giù. No, senza che lo buttiamo. Sta giù dalla torre. Però lo buttiamo, una spintarella, una piccola spintarella così. Però lei lo so che nel famoso gioco della da una parte Cosentino, dall'altra parte De Magistris, butterebbe giù Cosentino proprio con la spinta quella forte, però facciamo basta una spintarella piccola. I due buttiamo giù Cosentino. Ti ho detto, meglio che stia giù dalla torre, ma non per altro, non ha responsabilità ora. È meglio che non abbia responsabilità. Non lo devo decidere io. I socialisti sono come i democristiani ogni tanto, sono molto diplomatici, no Parenzo? Esistono ancora proprio i socialisti, non credo, adesso non c'è uno che dice sono socialista oggi. Ma lui lo dice, come no? Come no, lo confermo. Lo conferma. Magari Craxiano, anche Craxiano dirà. Beh, certo, io sono nato il post Midas, quindi con Craxi, quindi. Ma è stato un grande statista Craxi, signor Caldoro? Sì, assolutamente sì. Grandissimo statista. Sì, sì. Lei nel governo della sua città si ispira anche della sua città, della sua regione, Craxi è stato presidente del Consiglio negli anni in cui c'è stata la maggiore crescita del paese. Sì. Negli 83 anni, 85, ma in quegli anni è stato ridotto. È stato ridotto in quegli anni. Ma quei giudizi sono successivi e non mi pare che da quel punto di vista si sia trovato, voglio dire, un euro un euro che abbia trovato. Ma lei si ispira? Assolutamente no. Assolutamente. Comunque, lei si ispira nel governo della regione anche a Craxi? Ma io penso che il PSI craxiano e quella stagione della politica riformista, oggi tutti quanti dicono che sono riformisti, bianchi, rossi, verdi, sì. L'importante è che dicono che sono riformisti, vuol dire che quella politica che avevo messo in campo tanti anni fa è la politica che di cui ha bisogno il paese, e lei si ispira che anche sono a le riforme, le cose da fare, cioè, finalmente. Lei si ispira il anche suo quello. Modello sì, di governo è ispirato dall'azione di Bettino Craxi. Ma guardi, che male, ma tra l'altro sono molti che vogliono imitare Craxi oggi da sinistra e destra, no? Per esempio? Tutti si rifanno quella politica riformista che è stata nel PSI che ha avuto. Beh, Craxi, ma poi ricordiamo, sono com'è stati che lo tanti. Chiami tu, Parenzo, Craxi? No, non io, la vecchia battuta diceva Bottino Craxi, non Bettino. Ah, Bottino Craxi, le solite cose giustizialiste di Parenzo, va bene. No, senta, però andiamo alla querelle. Non ride, Grillino, no, un po' Grillino, movimentista, Parenzo, un po' movimentista. Andiamo alla polemica, quella vera di questi giorni, insomma. Lei è con De Magistris o con Cardinal Sepe? In un'intervista al Mattino, in una dichiarazione ripresa oggi anche da Mattino, lei dice di essere dalla parte di Sepe. Perché non si può fare un quartiere a luci rosse a Napoli? No, io sono contro la ghettizzazione in genere. Riprendo, sono socialista, lo rivendico. Socialisti e riformisti sono per le libertà individuali, la scelta individuale. Se tu ghettizzi, come si vuole fare in generale sulla prostituzione, allora mettiamo tutte le prostitute lì. Lo sfruttamento è la cosa che bisogna combattere. Ma la legalizzazione è d'accordo sulla legalizzazione della prostituzione? Ma no, intanto non esiste nelle leggi italiane, quindi sarebbe complicato. Per introdurla. No, io non credo, non credo che nel paese sia possibile. Non si può fare. No, è irrealizzabile. È mandato con una prostituta? No, guardi. No, mai? No, perché? No. Che e male poi c'è? Che devo confessare qua in diretta? Che devo fare? Perché no? Qui allora, è un grande confessionale. Allora ti dico subito, chiaro e forte, no. No, ma ed è sbagliato andarci? No, non do giudizi morali, anche in quel caso penso di essere riformista. Le libertà individuali, le persone devono scegliere, devono essere libere di scegliere. L'unica cosa che non possono avere, prepotenze e condizionamenti, quindi contro lo sfruttamento, della prostituzione. Ma si potrebbe incassare un po' di soldi per la legalizzazione? Ma non è che per i soldi tu sfrutti la gente. De Magistris sta sbagliando. Io penso sì, che ha sbagliato e credo che sia poi tra l'altro irrealizzabile quello che propone. Che dici, Parenzo? No, volevo capire questo, perché lui ha detto che non è mai stato con una prostituta, benissimo, gli crediamo, è vero così, ma da ragazzino non ha mai fatto quei favolosi puttan tour che Cruciani continua a fare tutt'oggi, ad esempio? No, io veramente non l'ho mai fatto in vita mia. Con me anche, sì, solo andare a vedere. Non sa cosa sono i puttan tour? Non lo so. Governatore, non lo so. Informarsi sulle cose che fanno i ragazzi. Ma quelle cose che fanno da ragazzini? Con le macchine si facevano i giri e vedere queste prostitute sulla strada. Si è sempre fatto. Ma non l'ha fatto, ma perché dovrebbe? Non è mica necessario. È bello tirar fuori l'aspetto umano del politico. Ma lei si è mai fatto una canna, per esempio? No, ma tra l'altro su questa cosa mi è capitato una volta da ragazzino, andando proprio a attaccare i manifesti, quando appunto c'erano i partiti che organizzavano, nella giovanile, attaccavano i manifesti per strada, e in quel caso mi è capitato, per esempio, di con degli amici, una volta che attaccavano i manifesti in alcune zone di Napoli dove c'erano, voglio dire, note assembramenti di prostitute in cui chiedavamo spesso anche una mano, così ci davano una mano a attaccare i manifesti. Dunque è stato aiutato da alcune prostitute. Abbiamo sfruttato. Avete sfruttato la vostra prostituzione. Abbiamo sfruttato. Senta, ma lei si è mai fatto una canna in vita sua? No. Non sa che cos'è l'ebbrezza di una canna? No, ma anche qui il caso non voglio dare giudizi. Legalizziamo anche qui, no? No, non voglio dare giudizi, guarda. No. Io penso che sia la droga un danno comunque alla persona. La legalizzazione delle droghe leggere si potrebbe fare. Ma non credo che sia un danno comunque. È un danno comunque. È irreprensibile questo Caldoro, Non socialista ha fatto, poco libertario. Non ha una... Perché socialista poco libertario? No, al massimo. Ti ho detto, le scelte individuali vanno rispettate e vanno tutelate. Ma dovete fare leggi perché sia possibile che uno non finisca in galera se si fuma una canna, amico mio, però, se no... Ma no, su quello sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, fumatevi una canna e non finite in galera. Sono d'accordo che bisogna riuscire a differenziare in termini di condanna un certo tipo di reato rispetto a un altro. Ecco, su quello sono d'accordo a differenziare. Senta, a proposito della questione delle prostitute, non farebbe una bella distribuzione? Vedo che è il tema della giornata. Sì, questo mi piace moltissimo. Io do ragione a De Magistris al 100%. Ah, tu sei d'accordo? Cosa. Sì, assolutamente. Ah, sì, dove lo faresti a Napoli, per esempio? Ah, non lo so, lei lo farebbe a Napoli da qualche parte. Detto di no, però se ci sarebbe un quartiere adatto a farlo. No, secondo me non esiste. Non esiste, eh? E in Campania dove si potrebbe fare? Ma no. No, non ci si può fare quest'ipotesi. Così un'ipotesi. Ma io la domanda l'ho fatta a te. Io dovrò fare chi la conosce Napoli? Non la conosco bene. Non sei dispensato. Non lo posso dire, però si può fare. Io farei a Posillipo, bellissimo. Cioè, la cosa va di pari passo. Secondo me deve andare di pari passo con la legalizzazione della prostituzione. Comunque, la distribuzione dei profilattici sarebbe una cosa da fare, secondo me. Ma su quello è una cosa diversa, in termini di prevenzione delle malattie, esatto, non c'è dubbio. Cioè lei farebbe una bella distribuzione di profilattici? Ma io non farei una bella distribuzione, dico che se è necessario, come necessario, come tra l'altro avviene. Sì, esatto. Dove ci sperra in particolare nella difesa, l'hanno fatta a Venezia la distribuzione malattie, di ma non andrei, così, a fare cose, non andrei a fare cose vistose ed eclatanti. Quando è necessario fare una prevenzione va garantita a tutti i livelli. Beh, vabbè, fuori dalle scuole, anche, ad esempio, anche la distribuzione dei profilattici, sì sì, ma nel senso più di educazione sessuale credo che sia più importante. Parenzo, hai qualche altra curiosità? Berlusconi è depresso? Ma è vero che Berlusconi è depresso o no? No, questo non lo so, ma non lo dice Feltri, ma lo dice, ma di carattere è uno che si riprende con grande forza. Si riprende con grande forza. Lei è d'accordo sul suo ritorno? No, tra l'altro vedo che la campagna elettorale è iniziata, no? Molti se lo sono tutti dimenticati, ormai sono giunti in campagna elettorale, hanno dato il foglio di via, quindi sono pronti, ho seguito Bersani, quindi no, sono tutti in campagna elettorale ed è legittimo che ci sia. Anche lei vorrebbe dargli il foglio di via? No, io no, no, sono molto più prudente, credo che avremo bisogno di Monti. Ah, anche dopo. Secondo me sì. Cioè, lei è uno di quelli che pensa alla grande coalizione anche dopo? Penso che possano esserci, se le elezioni non vanno, sì, devono andare con un vincitore certo, credo che l'Italia avrà ancora bisogno di una larga coalizione. Ah sì, Ma scusa, ma non ho capito, ma Caldoro cosa fa vedo con Sciorletta? Questo è un segnale della grande inciucio, della grande coalizione che si prepara anche per il dopo, altrimenti non sarebbe qui, diciamo la verità. In che senso? Beh sì, ma c'è una vicinanza. Ma Letta sicuramente più a destra di me. Come più a destra di me? Insomma. Io sono socialista, Ma come più a destra di lei, su Caldoro, ma lei si è alleato con un sacco di gente che più di destra non si può. Questo tra le alleanze, tra i due raggruppamenti ce ne vediamo bene. Ma lei con la Lega non ci vorrebbe più stare, diciamo la verità. Ma la Lega sarebbe meglio di no. Devo dire, finché la Lega ha lavorato, e devo dire questo è stato il grande merito di Berlusconi, essere riuscito a portare nell'area di governo la Lega. Però ormai sul federalismo e non sulla secessione è stato un grande risultato. Senta una cosa, ma Berlusconi che ritorna, mi dico, è tutto finito, perché riproporre ancora Berlusconi? Scusami, intanto voglio sapere, Bersani stava prima di Berlusconi, faceva credo non solo il ministro, il parlamentare prima di Berlusconi, credo sia legittimo se Berlusconi ha voglia di candidarsi, l'altro il giudizio lo danno i cittadini, quindi si presenta alle elezioni, uno lo vota o non lo vota, non vedo qual è il problema. Scusi, nel 94 quando scese in campo Berlusconi non c'era nemmeno Twitter, non c'era Twitter, no, siamo ancora a quella ma roba, guarda, là. Guarda, non la voglio dire con disprezzo, anzi io vengo da prima, Bersani c'era ancora prima. E con questo chiudiamo con Caldoro. Grazie governatore, che deve partire. A che ora lei? Grazie, sono in partenza. È in partenza, capito? Dove va? Torno a Napoli. Ma cosa fa a Napoli? Napoli dovrebbe essere accolto da un vagone di invece no, purtroppo non è a favore di questa idea di De Magistris sul quartiere a Luci Rosse. Sono molto depresso per questo io. Pensavo che Caldoro, socialista, pragmatico, laico. Devi difendere le persone. Legalizzazione della prostituzione e quartiere a Luci Rosse, come Amsterdam. Napoli come Amsterdam. Vuoi ghettizzare? Eccoci, 800 24 00 24, La Zanzara. Parenzo, ci sei? Sei coinvolto, Parenzo, in uno scandalo sessuale? Non preoccuparti, chiama l'onorevole avvocato Nicolò Ghedini. La prima cosa che dirà è: me velè. Ma scusa, ma che c'entra? Spiegalo, non si capisce niente, spiegalo. È un messaggio politico a pagamento. L'avvocato Ghedini, saputa la notizia del presunto, della presunta gestazione della signora Began, detta anche Ape Regina, subito si è affrettato a fare una dichiarazione, dicendo: non è vero. Ma come stai dicendo? Poi non è vero, subito. No, ha detto non è vero, ha detto è sicuramente una notizia. Uno dei che massimi esperti in scandali sessuali. Io lo dico, faccio pubblicità, non so se può fare pubblicità agli studi legali, però con i nuovi puoi fare pubblicità tranquillamente. Intanto io ti avverto che ti ho sostituito, Ti ho sostituito, sì. Purtroppo per te ti ho sostituito. Ti ho sostituito, passa, insomma, con una persona che gli ascoltatori della Zanzara apprezzeranno. Chi è? Apprezzeranno. No, non è Glucksmann. Bernardo Henri Lévy? No, Michele Cotone. Mi hai sostituito con Umberto Eco. Umberto Eco. No. Non Mare è Umberto Calter. Eco. No, ma chi è Mare Calter? Mare Calter. Io non so chi sia Mare Calter. Mare Calter, grande scrittore. No, non so chi sia. Mi hai sostituito. Dai, prova a indovinare. Cosa puoi aver fatto? Non è che mi hai sostituito con un bikini rosso? No, sì, con un bikini rosso. Selvaggia, no, Lucarelli, disperata. Grazie, era il mio sogno, è diventare il bikini rosso. Grazie. Il bikini rosso, grazie. Fotografata con un bikini rosso mentre si sistemava il seno prosperoso. Vorrei essere lì e so che Ingroia ha già aperto un'inchiesta per capire che fine ha fatto il bikini rosso della signora Selvaggia. È qui, lo mostro a Cruciani in tarda notte. No, vabbè, ma adesso questo. Questa è la notizia, eh? Si parlava di scandali sessuali, io volevo entrare subito in tema così. Ma non c'è nessuno scandalo sessuale, qui la notte andiamo a letto, niente, a mezzanotte e mezza andiamo a letto, fa freddo, dimmi. Papà, vai più piano con la, perché la bambina se no quella dalla cade dalla cosa lì. Di che stai parlando? Dicendo? Scusa, che stai dicendo? Non ho capito bene. No, c'è mio padre che sta facendo dondolare Margherita sull'altalena che abbiamo a casa. Ma scusa, di... ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Velocemente. Cioè, io scomodo, scandali sessuali e tu sposti tutto sulla bambina, sull'altalena. Ma guarda che è veramente di una tristezza, Parenzo, ormai... Vabbè. Ormai è di una tristezza infinita, parla solo di queste cose qui, come sistemare la bambina, la sua vita privata, le difficoltà, e il i casini... Rosso. E il bikini rosso. E il bikini rosso. E mi ha telefonato per un giorno intero per parlarmi del tuo bikini rosso, questa è la realtà. La trovo abbastanza incicciottita la signora... No. La signora Lucarelli. È incicciottita. No. È incicciottita. Non è assolutamente vero, stai continuando... Foto sono vecchie, allora smentiamo. No, le foto sono vecchie, le foto sono che sono apparse vecchie, su sono molti giornali sono recentissime, sono di una decina di giorni fa e mostrano una Selvaggia Lucarelli. Vero, di un mese fa, e passa fa, dai. Vabbè, un mese fa, non è tre anni fa. Però, ed è una Lucarelli in carne, Cruciani, diciamo, in carne, sei in carne. Sono due Lucarelli, giorni che mi dici che sono in carne, sono però sei carne. Sempre qua che palpeggi. No, diciamo. Palpeggio il braccio, Parenzo, sì, non equivocare. No, per salutarmi, vieni sempre lì, ciao, e palpeggia il braccio. Palpeggio il braccio, questo è vero. Lo confesso. Gli è partita la mano a Cruciani, è partita la brocca, vabbè. No, la mano, partita la mano, palpeggio il braccio per vedere la consistenza della carnosità. Comunque, mi sono incicciottita, c'è una ragione fisiologica. Sì. Sono incinta anche io. Ah, sei incinta anche tu? Certo, c'è una ragione. Annuncio clamoroso, Selvaggia Lucarelli incinta. Di sono chi sei incinta? Di Bersani. No, vabbè, cioè, dopo la Begani incinta di Berlusconi, Selvaggia scelto Lucarelli. Ho di dirlo qui alla Zanzara, perché ormai si usa così, no? Beh, quando avete fatto? Bersani di Cicchitto, però. Beh, insomma, tra i due. Tra i due, tra Bersani e Cicchitto. Cioè, qual è il faremo il DNA. Faremo il DNA. Io sono come la Fico. No, non lo vuole più fare il DNA la Fico. Ma scusa, ma quando hai fatto all'amore col signor Bersani? E tu che ne stai? A fine giugno, diciamo così. Dunque, Selvaggia Lucarelli, due punti, sono incinta anch'io come esatto. La Begum, però di Bersani. Esatto. Però e gli profumano i lobi delle orecchie. A lui profumano i lobi delle orecchie. Però scusa un attimo, Selvaggia, io voglio dire una cosa, ma tra Bersani dovessero essere gli unici due uomini al mondo, no? Sì, rimasti al mondo. Beh, ho capito, che cavolo, cioè, può succedere una guerra termonucleare e rimangono Berlusconi e Bersani. Arca miseria. E Selvaggia Lucarelli. Tu a un certo punto devi scegliere come far continuare l'umanità, cioè come l'umanità deve proseguire certo, in qualche modo. I grandi temi della guerra. E devi scegliere tra due, chi scegli? Ma in questo momento Berlusconi per tirarlo fuori dalla depressione, incombente. No, vabbè, dai, su. Dice che depresso. No, però veramente, tra i due, Berlusconi e Bersani. Cioè, veramente, Giuseppe. Lo so, è un orrore, lo so, è un orrore. È un orrore, lo so. Vero. Pensa che c'è gente che ci va per, lo sai, certo, no? lo so. Beh, a questo punto scelgo con Bersani. Con le bustine, no? Scelgo Bersani. Guarda, come tu... insomma, la stirpe Berlusconi si potrebbe anche estinguere a questo tu punto. Prenderesti una bustina da Berlusconi, la famosa bustarelle di Berlusconi? Senti, dimmi, ma mi hai chiamato oggi per fare... Ma no, ma figura, io giro con la borsa da 25 euro di H&M, non ho bisogno della Birkin di Hermès, caro. Non hai bisogno di macchine, non hai bisogno di case. No, della Mini. No, di case no. No, neanche. Di case no. Una casa di proprietà. Sai che se tu non avere case di proprietà, puoi rivolgerti, sei bella ragazza, puoi rivolgerti. Ma io adesso sono in carne, quindi mi spiace. Beh, guarda che Berlusconi ultimamente con le donne in carne... Ci vabbè, prende. Andrea da Pistoia, 800 24 00 24. Cruciani, buonasera e complimenti sempre per il taglio della sua trasmissione. Io per professione devo deludere un po' tutti per quanto possano essere le aspettative di questa gravidanza Begum Berlusconi, perché purtroppo per lui e per fortuna perché poi ne è guarito, è stato operato, come ha detto in pubblico, per un cancro della prostata tanti anni fa, per cui a meno che a suo tempo non abbia fatto la crioconservazione dello sperma, in qualche maniera può sicuramente avere, con aiuti di vario genere, si dice la famosa protesi, sì, si può avere rapporti, le pilloline sessuali, eccetera, sì, certo. ma figli è assolutamente impossibile. E questa non è male come cosa, non acuto. Non è male, è acuto il signor Andrea da Pistoia, che effettivamente coglie un punto centrale nella vicenda berlusconiana, i grandi temi della Zanzara. Berlusconi può ancora avere un figlio, ma sai, il figlio si può avere in vari modi, non c'è bisogno proprio della cosa classica. Si può prendere anche una parte, no? Un estratto di qualcosa. Tu ti immagini la bega che c'ha nel freezer, lo sperma congelato, è una scena bruttissima. Raccapricciante. Dai, Manuel da Vicenza, buonasera Manuel. Ciao Lorenzo, ciao Cruciani. Volevo suggerire a Monti una piccola manovra finanziaria che non colpisca i soliti noti. In poche parole, perché non vengono legalizzate le prostitute e la prostituzione? Dove potremmo sinceramente raccattare un po' di denaro? In più, liberalizzeremo anche una parte di forze dell'ordine da destinare alla malavita. Oltre a questo, perché non tassare gli immobili non ecclesiastici della Chiesa, quindi gli hotel, vabbè, piante, adesso lei va oltre. Bravo. Va oltre. Bravo. No, va benissimo, tassare... Queste piccole cose potrebbero veramente fare una finanziaria completa senza toccare i pensionati, i soliti noti e i piccoli imprenditori. Adesso una finanziaria completa non credo, caro Manuel, questo mi sembra un po' eccessivo, però la legalizzazione della prostituzione, tassare gli immobili non ecclesiastici, guarda che si può fare anche adesso, tassare gli immobili, quelli che non fanno attività di culto. Monti, essendo un governo tecnico, dovrebbe permettersi di far questo, perché non ha nessuno che può fermarlo. Perché non va bene, fa... grazie. Volevo sapere da Sebagia Lucarelli qual è il suo politico preferito. Ce l'ho, ho il nome. Ha il nome? Ho il nome, sì. Cioè, sì, il politico, quello che, mattizza, che ti fa sangue, sì, un cara po', Selvaggio, sì. Qual è? È Michel Martone. Michel Martone. Che fai con la faccia? Sì, che mi devo dire? Anche Martone un po'. Così, ma cioè il Gramsci degli esatto, anni... Esatto, mi piace questo riccio. Sì. Ti piace il ricciolino? Mi piace Martone. A chi assomiglia? Ma chi? A me moltissimo. Ma quando mai? Anche l'altro giorno mi hanno fermato per strada e ho detto: lei è Martone. Tu sì, sono Martone, mi hanno baciato per strada, così sì. Certo. Comunque lui si occupa di lavoro, io vorrei molto occuparmi del suo dopolavoro, diciamo così. Ah, così? Sì. Cioè, Selvaggia Lucarelli confessa una passione per Michel Martone. Ma da mo' che lo dico. Sì, così insomma. No, ci giro intorno, però è la prima volta che lo dichiaro. Però è sposato con figli, dice, non è un ostacolo. No, non è sposato con figli. Sì, sì, come no. Ma no, quando mai? Ma sei informata? Beh, certo. Ma sei sicura? È fidanzato. Sì, vabbè, è fidanzato, sì, legato, sì, con figli pure, credo. No, credo, assolutamente no. Stai googolando? No, ma non sto googolando. Non usare questi termini. Ha già messo Michel Martone i figli. No, ma guarda, credo di sì. Credo di no, ti garantisco. No, sì? Non è affiliato. Ma poi perché mi vuoi Michel scoraggiare Martone? Così? Non no, capisco. Ma hai già fatto dell'avanza, signor Martone? Ma no, l'hai contattato tramite internet, le solite cose tue, no? Ma secondo te io faccio delle messaggi diretti, mail? Mi vedi una che fa avanza? No, perché non hai bisogno, però che c'entra? Può succedere anche qualche volta, se Martone magari è inaccessibile, cerchi di raggiungere. Però facciamo una dichiarazione pubblica. Michel Martone, ma smettila, non esageriamo adesso. Invita a cena fuori. Andiamo a cena fuori, certo, sì, volentieri. Ma insomma è un po' triste che io faccia delle avance radiofoniche. Comunque avrà sentito, glielo riferiranno. Perché? E forse viene anche qui a Vedrò, guarda un po'. Addirittura? Pare che sì. Grande incontro. Dunque, la confessione di Sebagia Lucarelli. Vorrei andare a cena fuori con Michel Martone, e il mio, come dire, il mio politico preferito, ma sessualmente ti attizza, signor Martone? Ecco, là, tu mi devi proprio buttare tutto sul pecoreccio. Sessualmente, pecoreccio. No, sessualmente. Ma non lo so, è tutto sul pecoreccio, certo. Ma sì, dai, mi piace. Mi sembra il più belloccio dei politici. Giovane, poi, tra l'altro, no? Beh, sì, so, sì, giovane. È sotto i 40, quindi è giovane. Sì, siamo lì intorno ai 40. Vabbè, è raro trovare. Perché sei allibito, perché sei Parenzo? Allibito? Dimmi, chi, no, che, perché c'è una straordinaria somiglianza con me, Marta. Sono veramente una somiglianza. Non ti ho mai incontrato. Non ti ho mai incontrato. È bruttino, signor Parenzo. È bruttino, abbastanza. No, bruttino. Assolutamente. No, ma dì la verità, non l'ho mai incontrato. Sai, potrebbe avere il suo perché, non lo so. Lo devo incontrare. Sì, non l'ho mai visto dal vivo. Poi ora che mi dice che c'è questa somiglianza con Martone, ma cioè, identico, chiedo in giro, guarda qualcuno, ma quale identico, assolutamente. Franco da Modena, buonasera. Chi è Franco? Io sono più interessante Sì? Rispetto a chi? Ma ai personaggi che avete citato adesso. Sono più interessante perché sono per la ribellione. Ma i rivoluzionari hanno fatto il loro tempo, chi se ne frega dei rivoluzionari, Franco? Per la ribellione, ribellione che cosa lei? Siamo all'angolo, siamo all'angolo e nessuno condivide con noi i sacrifici. il sudore di tutti i giorni. Io non ho capito lei che cosa vuole fare, non ho capito. La ribellione contro chi? Contro chi? Contro chi? In un'azienda, quando un'azienda non va, si cambia il vertice. In questo caso chi dovremmo cambiare? Quando in un paese non va da 20 anni, bisogna che noi cambiamo il sistema politico, cambiamo il nostro modo di rapportarci, il nostro modo di vivere le cose. Non c'è nessuna politica fatta per l'uomo, per la va bene, ma contro dell'uomo. Chi si vuole ribellare, Franco, prima l'ora che parto con la punturina, contro l'ora chi si vuole ribellare lei? Contro chi ci governa, contro chi cioè, in generale, contro chi governa, cioè contro Monti? Contro coloro che fanno di mestiere il politico, contro coloro che dicono di non dover prendere i soldi dal finanziamento pubblico e poi le prendono e si fanno eleggere per 5 mandati. Basta. E non capisco come mai in questa epoca dove la comunicazione è veloce e immediata non riusciamo veramente a fare una catena contro questo sistema che ha una catena. Vai tu? Prego. No, è l'ora del Lambrusco. 7:15, l'ora del Lambrusco. Lambrusco time. Benissimo. Dove si trova? Nella zona del Lambrusco. Però, signor Franco, scusi, lei non può essere così, dobbiamo fare fuori tutti, politici, è sempre la solita solfa. Ma no, bisogna dire, lei mi dica una cosa. Non mi dica che è qualunquismo, perché con questa parola ci laviamo la bocca sempre ed escludiamo quelle che sono le vere problematiche. Kennedy diceva che era più facile cambiare il programma di un partito o di un governo piuttosto che le idee della gente. Qua le idee della gente sono precise. Eccoci, 800 24 00 24, la Zanzara con Selvaggia Lucarelli al posto di David Parenzo, una Selvaggia Lucarelli particolarmente in carne, in forma ma anche in carne. Beh, faccio ricorso alla consulta io. Lucia d'Alessandria, Lucia buonasera. Come napoletano. Buonasera, Cruzzani e Parenzo, ben tornati. Sì. Ci siete mancati tremendamente. Meno male, un'allegria incredibile informandoci di quel che succede in Italia. Brava, ci siete mancati tantissimo. Bentornati, volevo solo dirvi questo. No, vabbè, Lucia, non ci chiami solo per dire questo. Che sta facendo in questo momento? No, veramente. Poi sono d'accordo con voi sulla legalizzazione delle coppie di fatto, il matrimonio dei gay, tutto quanto veramente per fare un'Italia all'avanguardia, almeno al limite dell'Europa, insomma. Ecco. Ma scusi, lei è un'elettrice di centrosinistra o di centrodestra, così tanto per Io sono radicale da sempre. Radicale da sempre. Quanti anni ha? Scusi, no, non dovrei chiedere, ma quanti anni ha lei, cara Lucia? Ne ho 71. Beh, 71 anni a favore di tutte queste cose. Giovane femminista, mi sento ancora giovanissima, guarda. Brava, dobbiamo fare insieme una grande battaglia anche per la dolce morte, il diritto alla morte. Tutto, io condivido tutto. Brava, ognuno deve scegliere come vivere, come morire, eccetera, eccetera. Brava. Va bene, no, sai Parenzo, no, Taliban. Sai Parenzo che c'è un senatore del PDL che ha fatto uno striscione. Io oggi sono solo del bikini rosso della signora Selvaggia, perché io ho quest'unico questa ossessione, lo so, Parenzo. Voglio fare proprio un servizio anche per la 7, per in onda, sul ruolo del bikini nella città postmoderna della signora Selvaggia. Io volevo dirti, Parenzo, che c'è un senatore del PDL che ha si è inventato uno striscione, sai, quelli che vanno con gli aerei sopra vicino sulle spiagge, cioè. Perché ridi adesso? Lo striscione si chiama Silvio Ritocco. C'è scritto Silvio. La casa del Grande Fratello, quelli che passano sopra la casa del Grande Fratello. Sì, sai, carini. Silvio ritorna. Ah, bello. Detto, bellissimo, Silvio ritorna. Così romantico. Ma ha pagato? Beh, certo, l'avrà pagato. Cioè, bisogna pagare per far circolare questi aerei. Cioè, il senatore non poteva che essere lui, sempre uno dei, come dire, dei cantori di Berlusconi per eccellenza. Il senatore Mario Mantovani, buonasera. Buonasera a lei, nessun cantore, io sono un simpatizzante. Simpatizzante mi pare un po' poco, simpatizzante. Sostenitore del Cavaliere. Beh, ma insomma, simpatizzante adesso mi pare un po' restrittivo. Ma non ne canto le lodi, lo faccio perché... Ma come non canta le lodi? Ma sono come, per mare, per cielo, per terra? Per esatto, sì, ha fatto un aereo, ho scritto sì. Credo, Sì, d'accordo, però uno che fa un aereo, ha scritto Silvio ritorna, e se non è un cantore lui, chi è un cantore? Diciamo la verità. Lo so, piano letterario, mi pare che i canturi siano un'altra cosa. Insomma. Un aereo, guida, come lo, si può dire? Lo guidava Carole, lei, Carole, un aereo, sì, un aereo, no, quasi da pubblicità. Cioè, vorrei dire, più di questo ci sono solo i lucchetti a Ponte Milvio. Cioè, esatto, scusi, questa è la signora Lucarelli, accentrato. Lei ha mai fatto un lucchetto per Berlusconi a Ponte Milvio, caro senatore non Mantovani? Non ancora, ma mi ha dato un'idea. Vero? Beh, però lo potrebbe fare, potrei fare un lucchetto, amo Silvio, no? Un lucchetto su Berlusconi. Ma non è male, non è dell'aereo, amore, è questione di tornare, di mettersi in gioco ancora, perché sì, però io credo che il paese ne ha certo bisogno. Questo assolutamente, è anche questione di amore. Ma l'ha pagato sto aereo? Sotto gli ombrelloni, insomma, per cui 1500 euro più IVA. Ma chi l'ha pagato? Più IVA? Guardi, è stata fatta una raccolta fondi sulla spiaggia. E come poi raccolta fondi sulla spiaggia? Pagato. Sulla ha pagato spiaggia, il partito, gli cioè albergatori, non è mica una novità, voi siete forse rimasti un po', l'abbiamo fatto anche qualche anno fa, quando il governo era un po' in difficoltà, gli abbiamo scritto Forza Silvio, l'Italia Ma Unite. A cosa serve? Ma guardi, è stato... Secondo me a uno gli girano pure le balle, sta lì in spiaggia, tranquillo, io sono aereo, stato in un balle, ristorante a Riccione, io generalmente non vado ai ristoranti, sì. Pensi che il proprietario mio non è un volto noto, mi ha detto, ah, quella striscia domenica è stata una favola, per cui credo che abbia proprio dato un po' un segnale di amicizia, di affetto. Ha spostato voti, sicuro. E Berlusconi l'ha chiamata? Sì. Tu pensi, io non so chi l'ha avvisato, mi ha chiamato dopo una mezz'oretta e mi ha detto, ringrazio del gesto affettuoso, però guarda, sto decidendo, sto vedendo il da farsi, l'Italia un po' in difficoltà. E quindi questo è stato, insomma, tutto 1500 lì. Euro e più IVA, ma io voglio capire, sono soldi nostri del finanziamento pubblico? No, guardi, sono soldi miei, esclusivamente soldi raccolti sulla spiaggia e in parte anche da me, ovviamente. E chi gliel'ha dato? Scusa, lei che quando ha chiesto i soldi, che ha detto? Devo fare uno striscione con scritto Silvio ritorna. Io se guardi, mi avessi detto una cosa del genere in spiaggia, io avrei fatto il gesto dell'ombrello. Da 50 anni, devo dire che gli albergatori, gli amici, gli amministratori, insomma, ci conosciamo, ci troviamo a mangiare la piadina, eccetera, eccetera. Sì. È venuta questa idea e così è stato fatto. Una genialata. Com'è? No, dice Parenzo un'idea geniale. Ma forse mi sorprende molto di più questo gesto d'amore di Mauro. Quando c'è l'amore va bene tutto. Ma mi sorprende di più quel simpatico pirla che invece due giorni dopo o un giorno dopo ha fatto l'aereo contrario. Quello lì. Cioè lui dice è peggio quello che ha fatto l'aereo contrario, ho scritto Silvio non ritorno. Ha mancato di originalità, voglio dire, insomma. Poi sai, è un consulente informatico, quindi posso immaginare da dove ha tratto la propria idea, no? Sono mica anche il sindaco di Parma, adesso mi pare sia un consulente informatico. Non tratti no? Male i consulenti informatici, che male hanno fatto i consulenti informatici? No, per carità, ma sono quelli che sono addentro alla macchina del web, tutte queste cose, che francamente non hanno quei sentimenti veri e profondi che invece si intrecciano mangiando la piadina con 30, 40, 50 non mesi, c'è dubbio, sentimento vero di con quello un po' di però Trebbiano lei... di Sangiovese, credo che certo sia un modo, ecco, appunto, un modo Sangiovese migliore per passare un po' di vacanza. Mi sa che il Sangiovese ha tirato un brutto scherzo anche lei, ha fatto la sua parte, la sua parte, non c'è dubbio. Senta una cosa, ma io voglio capire, lei tempo fa aveva detto la Minetti si dimette e invece poi qui ancora ne ma sembrava prossima, mi avevano dato proprio questa rassicurazione, prossima le dimissioni. E invece che successo? Poi che è successo? C'è stato troppo caos, troppo baccano sul piano così della pubblicità e quindi dice ma non è il momento, aspettiamo, non è il momento. Insomma lei non è il momento, sta la fa la trattativa, altro che è libera di dimettere. Lì c'è una trattativa in corso, lei lo sa, no? Una trattativa. Beh, io questo non lo so. Più non seria della trattativa Stato Mafia qui. Sicuro? Io so che di trattative in politica non ne ho mai fatte sotto questo aspetto. Beh, però ci sono, però, senatore Mantovani, le trattative non ci sono. Non lo escludo, non lo escludo. Le buone però, uscite, come dire, no? Non ne sono a conoscenza. Senta, ma scusi un attimo, ma è vero che Berlusconi è un po' depresso? Come dice Feltri, lo dice la Began, no? Io l'ho sentito domenica scorsa. Com'era? Ieri, l'altra domenica. Carico? Molto carico. Ma ha detto molto che ha perso carico, chili, che fa una bellissima vacanza, che si sta preparando, che è in forma. Niente feste. Sta pensando e sta pensando anche al nostro paese. Sta pensando al nostro paese. Quello ci ha sempre pensato al nostro paese, no? Beh, insomma, da un po', da alcuni anni c'è gente che invece ci pensa da 30, 40, 50 anni e francamente... Sì. Però scusi, perché Feltri, la signora Began dicono che è un po' depresso? Cioè questi momenti di depressione? Ma forse sono più loro che non del presidente, quindi... Ah, cioè è Feltri essere un po' depresso? No, Feltri non credo, non so dove ha fatto le vacanze, comunque... Ma anche lei, come Berlusconi... Del governo, mi pare, per cui... Anche lei dieta e corsa, senatore Mantovani? Sì, sì, molta dieta, solo che ne ho persi solo 4 di chili, ho fatto corsa, ho fatto nuotato, insomma. Tutto come Berlusconi, tutto come Berlusconi. Io poi ero nell'Adriatico, è Mare Nostrum, quindi tutto bene, insomma. Va bene, senatore Mantovani, lei conosce la signorina Lucarelli? Selvaggia Lucarelli? Lucarelli no, avrei piacere di incontrarla. Se lei... Quella del bikini rosso. Se lei va su Google e fa... Se lei va su Google e fa... Esatto, se lei fa Selvaggia Lucarelli bikini, rimarrà in qualche modo insomma, sorpreso da queste foto che sono circolate. Perché non la candidate la signora Lucarelli, scusi? Ma c'ha il physique di lode alcune delle vostre candidate. Solo che qui è tutto nature. Non mancherò di incontrarla, anche perché il bikini ha un bellissimo costume, per cui in Romagna trionfava, insomma, il bikini quest'anno. Me lo noleggia un elicottero, almeno? prima ci incontriamo, poi sento poi mia moglie e poi mezzo. Senti, ma la prossima grande iniziativa del senatore Mantovani, quale sarà dopo l'aereo? Quale sarà la prossima grande iniziativa? Dopo l'aereo Silvio ritorna, che ci deve essere, cioè, ne so, una mongolfiera. Io mi auguro che Silvio vinca, che si presenti, che prenda coraggio. L'altro giorno al porto di Bellaria era tutto un vociare su questa questione. Io sono il primo berlusconiano italiano e Silvio, se si ripresenta, vincerà. Ma non sento ancora la voce di Dell'Utri, caro Parenzo. Non sento la voce di Dell'Utri. Regia a Milano, mandatemi la voce di Dell'Utri. Di ancora tale, Simo. Di nuovo. Di ancora tale, Simo. E siamo ancora qui, siamo tornati. La Zanzara 800240024 per un'altra grande, grandissima stagione. In compagnia di chi? Forse di David Parenzo, non lo so, se si riprende dal suo torpore, se si riprende dalle sue vacanze, se si riprende dai suoi impegni. Special guest sarà spessissimo la signora Selvaggia Lucarelli, che avete appena ascoltato e di cui sono perse le tracce del bikini rosso qui in Trentino. E naturalmente ci siete voi, voi e anche il TG3 di Bianca Berlinguer, come sempre. E anche? Gli operai del Sulcis che oggi hanno fatto questa cosa straordinaria. Ma a me non me ne può fregare meno. E lo sapevo. E invece è la più grande notizia del giorno: questi operai che sono scesi a 373 metri di profondità hanno occupato la miniera di carbone, hanno chiesto al governo energia pulita. Ma che sei diventato, Telese? Col Sulcis, la Zanzara sei diventato è col Sulcis. Telese. La sei diventato con Telese. Voi, compagni, la Zanzara è con voi. Ma non è vero. Ma non è vero. La Zanzara è con voi. Anche il bikini della Selvaggia è con voi. A lottare con i minatori del Sulcis. Cioè, tu hai mischiato la questione dei minatori del Sulcis col bikini di Selvaggia Lucarelli? No, perché bisogna sempre mettere un tocco di leggerezza e un tocco di profondità, perché questi minatori che hanno occupato la loro azienda, minatori chiedendo che venga trasformata in energia pulita, è uno dei più grandi gesti di generosità che la classe operaia possa fare al proprio territorio. Noi dobbiamo stare con loro. Fammi mandare i titoli del TG3. Sto facendo la trasmissione, Marghi, un attimo. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Dura protesta di minatori del carbone in Sardegna, a 400 metri di profondità chiedono la riqualificazione della miniera. Continua la corsa della benzina, nuovo record oltre i 2 euro al litro. Il governo conferma la stretta su fumo, alcol, gioco e bibite gassate. Monti da Napolitano fa il punto sulle riforme e i prossimi appuntamenti europei. Decreto anticorruzione, Gasparri con la fiducia, non lo votiamo. Bersani torna sulla polemica con Grillo e le critiche replica, non divaghiamo. Chi ci vuole seppellire usa un linguaggio fascista. Non esplode fortunatamente un razzo lanciato contro una base italiana in Afghanistan. 3 feriti, orrore nel sud del paese, 17 decapitati. Nasceranno a Natale le nuove province italiane, saranno 50 e non più 86 e si studiano i nomi, ci sarà anche la provincia del gusto. Lungo gli argini del Tevere, nella capitale è un'invisibile città parallela, tra cumuli di immondizie e accampamenti improvvisati, il degrado del fiume. Di ancora a casa, Simo. Coca-Cola, chi Vespa mangia le vele. sei ancora a casa, Simo? Le bollicine, il governo vuole tassare le bibite. Le bibite che fanno male, secondo loro, le bibite gassate. Poi quali? Tasseremo la Coca-Cola, però non quella zero. Tasseremo, non so, la Fanta. Tassiamo il chinotto. Cosa dobbiamo tassare, ministro Balduzzi? Perché ci vuoi dire cosa possiamo bere e cosa non possiamo bere? Io, caro Parenzo, mi sono veramente rotto le scatole, per non dire una parola più pesante. Non ne posso più. Quando bisogna trovare i soldi, si pensa subito a mettere una tassa. Questa volta sulle bibite gassate, basta! Ma non è vero che il ministro dice cosa bere e cosa non bere. Dice, se bevi delle cose che ti fanno male, te le faccio pagare di più. Ma chi l'ha detto che fanno male? Chi lo dice? Chi lo sostiene? Come si fa? Anche Veronesi tempo fa diceva alcuni cibi che portano disfunzioni e qua, poi uno può mangiare quello che gli pare, è evidente, uno può fumarsi anche 80 pacchetti di sigarette, però paga il pacchetto di sigarette 5 euro e non 3 euro e mezzo, cioè c'è una logica in questo, può piacere o non piacere, ma c'è una logica. Perché quando bisogna trovare dei soldi si pensa subito a mettere delle tasse? Questo certo, perché questo si pensa subito a mettere delle tasse, una roba da stato etico che ti dice quello fa male, le bibite gassate fanno male, magari faranno anche male se uno si nutre ogni giorno di Coca-Cola e si beve 4 litri di Coca-Cola al giorno, per dirne una, no? Siccome ha un costo per il sistema sanitario nazionale. Ma chi ha detto? Ma quando mai? Comunque c'è una logica. Può non piacerci, anche a me non piace molto, ma non farei una crociata adesso contro il ministro della salute perché ha fatto questa cosa qui. Mi occuperei non è una crociata, degli scandali della sanità della regione Lombardia, ad esempio. Quelli sono gli scandali veri. Ma lasciamo perdere gli scandali della sanità della regione Lombardia, che è la regione amministrata meglio in Italia. Il problema non è quello dal punto di vista della sanità. No, ma è così, inutile che ridi. Ma no, ci ho vissuto per 10 anni, è evidente, ma dopodiché allora, se dovesse allora essere appurato che qualcuno ha rubato, avranno anche amministrato bene, ma rubato. Ecco, appunto, quando sarà appurato. Comunque, come al solito, metti insieme due cose che non c'entrano niente. Una cosa è come viene amministrata la Regione Lombardia, un'altra cosa è la questione della tassa sulle bibite gassate, che è un'emerita stronzata, diciamola subito. È una stronzata. Ministro Balduzzi, lei sta facendo una cazzata, punto. E basta. Abbiamo con noi Vittorio Feltri, buonasera. Buonasera. Direttore, condivido, come stai? Condivido, caro Giuseppe Cruciani, pienamente. Non se ne può più. Ma anche perché la salute è mia e della mia salute faccio ciò che mi pare. Pago già molti quattrini ogni mese per il Servizio Sanitario Nazionale quindi credo di fare il mio dovere. Se poi a me piace fumare, piace bere le bibite gassate, sono rigorosamente affari miei e non vedo perché ci debba mettere il becco il Ministro della Sanità, il quale con il pretesto di preoccuparsi della mia salute in realtà infligge a tutti una tassa iniqua e di ciò dovrebbe vergognarsi, perché la ricerca della felicità non è una pratica deplorevole, e quindi se io sono felice a bermi una bibita gassata sono assolutamente fatti miei. Ma anche negli Stati Uniti il grande direttore Felti, che ti saluto, ti omaggio, mi inginocchio e ti ricordo della Minetti che ancora non si è dimessa, ma voglio dirti, anche negli Stati Uniti alcuni cibi che fanno ad esempio ingrassare, siccome ritengono che essere grassi sia un problema in quel paese, te lo fanno pagare di più. Fumare le sigarette costa di più. Ma no, ma non è un esempio. Dovrebbero tassare le hamburger, dovrebbero tassare i salami, dovrebbero tassare la carne. Perché la carne non la tassano? Tu hai citato Veronesi. Veronesi dice che la carne non bisogna mangiarla, e allora perché non si tassa anche la carne? Ma siamo già ipertassati, c'è un'IVA mostruosa, siamo il popolo al mondo che paga le aliquote più alte e adesso ci vengono anche a tassare le bibite gassate. Ma poi chi l'ha detto che fanno male? Che per esempio Milano, che dicono essere inquinata, è la città dove le aspettative di vita sono più lunghe. L'inquinamento fa bene, ce lo vogliamo mettere in testa? Ma poi io dico una cosa, direttore, scusa, se uno si vuole bere 2 litri di Coca-Cola a settimana, no? Ma perché io lo devo pagare di più? In virtù di cosa? Perché questa tassa? Perché? A me piace il vino, perché il vino fa bene, dicono che fa male il vino. Io bevo tutto il vino che mi garba e me lo pago, già pago l'IVA, già pago il prodotto, perché sì, dovrei pagare anche una super tassa? Ma è ridicolo, ma è l'impostazione del discorso che è assurda. Lo Stato deve pensare solamente ad amministrare bene, a cambiare le lampadine fulminate, non deve venire a rompere le scatole in casa mia. Ma è vero che Berlusconi è depresso? Se lo chiede anche Enrico Bertolino, che è con noi, è qua. Lo conosce, dai, Bertolino? È depresso, lo conosce? Ma si deprime per pochi secondi, 15, ma come 20, per pochi secondi? 30, esiste la depressione, la fast depressione, che esiste? La depressione veloce. Ma è di bassa pressione, nel senso che lui per mezzo minuto si deprime, dopodiché reagisce come del resto abbiamo potuto constatare negli ultimi 20, 25, 30 anni. Senti, direttore, ma tu conosci Enrico Bertolino? Il comico? Il comico, sì, comico. Adesso non è che sono. No, va bene, insomma, è stato ospite, il direttore Felti, è stato ospite anche della mia trasmissione su Rai 3 a Globo. Sì, è verissimo. Sì, no. È venuto e ha avuto anche molto piacere di ospitare. E ho avuto piacere di ospitarlo e spero che torni. Ma ha detto che Berlusconi si deprime per 30 secondi. Chi? No, non è comunista Bertolino. Felti? No, Felti è comunista. Pensavo, no, mi ero spaventato. Bertolino mica è comunista, che c'è? Poi no, i comunisti mica esistono più. Ma io cambio partito ogni 20 minuti, perché non voglio dare un bersaglio fisso. Cioè, in che senso? Scivolo di qua e di là. Adesso sono all'UDC, ma per 20 minuti e non di più. Non di più. Vabbè, così è comodo però, scusa. E certo che è comodo, perché deve essere anche scomodo. Oltre a quello che paghi, io non potrò cambiare. Vittorio, c'è Bertolino che è molto interista, tu lo sai che è molto interista. Sì, questo no? Sì, questo molto non, questo non posso negare. Sono disgrazie che possono capitare. No? È vero. Però io lo penso come Bertolino, cambio anch'io ogni 20 minuti no, però ogni paio di giorni cambio. Ecco, ma tu che cosa hai votato nella vita, Vittorio? Hai votato Berlusconi? Ho votato sicuramente. Tutto. Prevalentemente votavo socialista, parlo di molti anni fa. Poi? Dopodiché c'è stato il ribaltone all'inizio degli anni 90 e poiché la sinistra mi faceva più schifo del centrodestra, ho pensato di votare per il centrodestra per mancanza di valide alternative. Tutto anche lì. Di Pietro hai votato una volta. No, sì, non è stata una scelta di fede la mia. È stata Pietro hai votato qualche volta? Sì, no, di Pietro non l'ho mai votato, ma comunque segreto, con ragazzi. Di Pietro ho un bellissimo rapporto, mi è simpatico, lo capito? Stimo. Non ci sono problemi, mamma mia, le cose per andate spesso a cena insieme, andate spesso a cena, ogni tanto vi incontrate, no, spesso no, però ogni tanto andate a cena. Ci incontriamo, non ho niente contro Di Pietro, posso evidentemente non condividere tante cose che dice, che fa, ma questo non significa che sul piano personale sia rimasta un'amicizia che risale all'inizio degli anni Ottanta, quando Di Pietro era PM a Bergamo e io dirigevo un giornale locale. Bertolino, ma hai saputo questa cosa della tassa sulle bibite gassate che vuole mettere il governo? Sì, lo so. Io... Sei un bevitore tu di bibite gassate? No, io smetto adesso, cioè io approfitto delle tasse per smettere. Questo su tutto? Sì. Io le prendo... Anche di guadagnare allora? No, di smettere di berle. Cioè, ma la bibita gassata è la tassa sui rutti praticamente, perché viene garantito che tu non puoi più. Ogni rutto, ogni emissione gassosa viene tassata, per cui la flatulenza, i rutti sono tassati. E quando si arrivi ti tasseranno anche l'aria che respiri, qui non ti tassano quella che respiri ma quella che emetti. Ed è giusto. È giusto, c'è un criterio di giustizia. Ma scusa, se uno rutta fa schifo. Ma guarda, i giapponesi sarebbero morti per questa cosa qua, perché loro dopo il pranzo è abitudine fare proprio una... Comunque, quanti giorni sono passati da quando Vittorio Felti ha detto che si dimetteva la Minetti? Hai tenuto il conto, Parenzo? No, hai tenuto il conto? Sicuro. No? Qualche mese? Noi teniamo sempre il conto, caro Vittorio, siamo sempre lì a tenere il conto. Non so che me lo rinfacciate ogni volta, però vedrete che entro 35-36 anni la Minetti si dimetterà. Ah, ecco, 35-36 anni. Però voglio chiederti l'ultima cosa prima della borsa, ed è questa. Dimmi la faccia che fai ogni volta che Berlusconi ti racconta per l'ennesima volta una barzelletta. È capitato anche recentemente, Cioè, sì, Berlusconi racconta... Allora, volgo lo sguardo altrove, soprattutto osservo le persone presenti e sono tutte ansiose di scoppiare a ridere quando la barzelletta giungerà al termine, e questo è lo spettacolo più divertente, mentre le barzellette naturalmente sono vecchie, le ho sentite mille volte, quindi non posso unirmi al coro delle risate. Ecco, ma lui quando tutti i volti se ne accorge? Sì, lui, qualche volta se ne è accorto e capisco che la cosa non gli faccia molto piacere, lo sottolinea con qualche battuta, ma anche quella non mi fa molto ridere. Andate via, non conosco la follia, voglio uscire di qui, dai toglietemi gli occhi di dosso, sono depresso. La depressione di Berlusconi, secondo Sabina Began e secondo Vittorio Feltri, per pochi minuti, dice Feltri. Il senatore Mantovani pochi minuti fa ha detto: è depresso chi dice che Berlusconi è depresso, rivolgendosi a Feltri. Vittorio, io non ho capito bene questa storia della depressione di Berlusconi, cioè, ma Mantovani parte il senatore... fa le diagnosi a distanza come vanno a Marche, insomma. Tu ci credi, Bertolino, a Berlusconi depresso? No, non me lo vedo, il personaggio non lo vedo depresso. No, finge la depressione, che è una cosa bellissima. Cioè, scusa. Per non farsi rompere i maroni. Dici così. Secondo me sì, dice oggi lasciatemi solo, sai quelli che fanno lasciatemi solo perché oggi io non posso parlare con nessuno, abbiate pazienza. Dice che non riesce mai a stare solo, è sempre circondato da persone. Comunque è meglio che avere a fianco altri, ma che sai, magari se ti passi un pomeriggio con Bondi, non è un entusiasmo. Ma con Bondi ormai ci passa poco tempo. Per dire. No, quello sicuro. Anche Cicchitto, anche Gasparri, non è che... Che poi anche loro vengono lì, hai bisogno, Silvia, hai bisogno, lui fa basta, se ho bisogno vi chiamo. Anche puoi darle tutti i momenti a chiedere. Senti, io però sono appassionato di due argomenti di quest'estate. Il primo, caro Vittorio, adesso presentiamo anche un altro ospite che è qui accanto a noi, so che è rimasta anche lei appassionata da questi discorsi, che è il primis il sindaco di Napoli De Magistris. Io sono d'accordo al 100% che vuole fare il quartiere Luci Rosse a Napoli. Quartiere Luci Rosse a Napoli, non si può fare il quartiere Luci Rosse a Napoli, no. Però lui lo dice e fa bene a dirlo. Bisognerebbe prima, come dire, legalizzare la prostituzione. E l'altra cosa, il candidato a governatore della Sicilia, signor Crocetta, sì, il quale dice che si vuole candidare e però rinuncia al sesso. Perché bisogna rinunciare al sesso per fare il governatore della Sicilia? Caro Bertolino. No, qui l'hanno fatto anche Vedrò. Cioè? Oggi c'era un gruppo soppresso, io denuncio questa cosa. Cioè? È stato un gruppo che si chiamava Super Touch, che sì, era proprio sul sesso, sui contatti umani. È stato abolito. Sono stati fatti confluire nel gruppo misto del libero arbitrio. Sì. Che non ha niente a che vedere, cioè, perché io allungavo la mano morta, era un gruppo dove si poteva limonare, c'erano delle opportunità anche qua per questa gente che invece vuole continuare con questa cultura, andiamo avanti con la cultura. Quale cultura? Quella della... È quella dei gruppi di lavoro, dei working group, che portano fuori, e questo è stato soppresso, un gruppo, eravamo in pochi, ma buoni, eravamo pronti. C'era Selvaggio Lucarelli, poi c'era Castelvecchi pronto a dirigere il gruppo, eravamo in pochi, ma una task force del sesso parlato. Che non fa male a nessuno, non contagia, non disturba. Allora io... Vittorio, scusa, perché un governatore per candidarsi, anzi no, un candidato governatore deve dire che rinuncia al sesso? Ma mi sembra abbastanza ipocrita, perché è facile dire io rinuncio al sesso, poi bisogna vedere nella pratica quello che succede. Comunque dire di rinunciare al sesso non costa niente, è un modo per farsi della campagna elettorale a poco prezzo, anzi gratis in questo caso. I fioretti del mese mariano sono quelli. Ma scusa un attimo, ma io alla fine dei discorsi, grande Italia, sto Berlusconi, si candida o non si candida? Tu che sai tutto, Vittorio, diccelo tu, si candida o no? Ma come puoi immaginarti un PDL o un Grande Italia, come lo vogliamo chiamare, senza Berlusconi? Siamo nei magazzini generali, però. No, Grande Italia. Quindi sicuramente le cose andranno così. Certo, Berlusconi già ha messo le mani davanti, dicendo ma qui ci sono le procure che indagano su di me, cosa peraltro vera e credo anche fastidiosa dal suo punto di vista. Sì. Però comunque una campagna elettorale senza normale, Berlusconi è inconcepibile. Con un PDL senza Berlusconi è inimmaginabile, è talmente ovvio. Hai capito, Bertolino? No, come inimmaginabile... Com'è inimmaginabile che Berlusconi dica la cosa che ha detto questo candidato in Sicilia, cioè non mi candido ma rinuncio al sesso, penso solo all'Italia, tutti riderebbero come dei pazzi. Anche questo, Vittorio, è inimmaginabile, Berlusconi che rinuncia al sesso è abbastanza inimmaginabile. Ma in effetti non l'ha mai detto, non lo dirà mai, credo che Berlusconi possa rinunciare al sesso se non ce la fa, perché c'è molta mitologia sull'attivismo sessuale di Berlusconi. Dici? Mitologia, un uomo di 76 anni scoparsene 18 a sera, francamente mi riesce difficile. No, 18 a sera no, però 18 al mese magari sì. Insomma, metterei come argomento io domani in lista. Non scherziamo. Su. Bene, grazie Vittorio, a presto. A presto. Saluti. 800-24-00-24 con noi Marianna Madia, deputato del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Bene. Conosce la signora Madia? Come no? Enrico? Conosciamo e ho piacere che sia qua. Hai piacere? Eh? Certo, perché lei è una presenza che dà un po' di rilievo e di luce a questo torvo raduno di intellettuali. Ma come guarda torvo raduno di intellettuali? Avuto un bambino. Mi ha fatto pure ridere. Ma no, lei che c'entra? No, ne parliamo così allegramente, io devo dissacrare. Nel senso che non sono torvo o non sono intellettuale? No, non sei torva e sei intellettuale. Si può essere intellettuale senza essere torvi e mesti. Pensavo volessi dire sono torva e non intellettuale. No, no, la mestizia intellettuale è la peggiore. Però adesso, caro onorevole Madia, ci racconta un episodio straordinario, sì. Bertolino. Una cosa? Persona che ha incontrato sul treno per arrivare a Vedrò. Non farla lunga però. No, molto no, ma no, è stato, queste sono le cose belle invece di Vedrò. Cioè, quando ci si incontra con persone e mi sono venuti a prendere, diciamo, sì, proprio sinceramente, non sì, era il treno, era una macchina, mi hanno preso, però hanno detto può condividere il viaggio con un'altra persona e che deve venire. Questo? Ed è il Lorenzo Turricchia, che è questo scienziato grandioso che sta oggi ha parlato della dei superpoteri. Cioè, sì. E che si è inventato questo signore? No, no, lui non si è inventato, lui è andato 10 anni fa in America a studiare, a lavorare, perché al MIT di Boston, che è il Massachusetts Institute of Technology, per cui stiamo parlando di cosa alta, perché studiava come ridare l'udito ai sordi con un microchip inserito all'interno. Io, fantastico, che sono curioso di natura, ho chiesto, mi sono informato, e lì però l'udito è una piccola cosa, cioè dietro ci sono altre cose. Per esempio, ha spiegato, che oggi non le ha volute dire poi in platea, perché del topo mi incuriosiva. Ecco, quella del topo a me ha colpito tantissimo. Cioè, lui dice che tra i vari studi gli scienziati hanno trovato che inserendo un elettrodo nel punto del piacere del topo, dove il topo sente il massimo del piacere, con questo elettrodo trova un'autostimolazione che gli, ad esempio, lo distrae sia dal mangiare che da altre attività e si dedica solo a procurarsi piacere. Una cosa Se noi avessimo inserito questo elettrodo, prima stavamo parlando di Berlusconi, e 20 anni fa, noi ci saremmo risparmiati un casino di problemi, e lui anche avrebbe speso molto molto meno. Cioè, solo l'elettrodo, cioè si sarebbe appagato il chip, col silicio, un silicio che rispetto a tutto quel meretrame che girava, no? ragazzi, cioè, questo qua è un vantaggio. Poi la seconda macchina invece che mi ha colpito molto, ma quanto costa questa roba? Non l'ho chiesto, ma non lo dice, lo stiamo brevettando. Berlusconi non sarebbe un problema, no, però lo dico per noi, per te Cruciani, non è ancora, non è ancora in commercio, mica ne ho bisogno come per Berlusconi. È la pippa bionica, è il concetto? Ah, la pippa bionica, sì, perché se tutti procuri piacere costantemente in tempo rollover. La seconda cosa e poi chiudo, che mi ha incuriosito, a parte le cose serie, quest'uomo ridà veramente l'udito attraverso interventi ai bambini, stanno lavorando sull'occhio bionico e sul cuore bionico. E la cosa che mi ha colpito tantissimo è questa cosa c'è un apparecchio che riesce a leggere tipo Matrix i pensieri e li proietta fuori, cioè ti proiettano quello che tu pensi. Lo applicherei a Bersani. Che io vorrei capire che cosa sta pensando da 10 anni, ma capirlo, cioè leggerlo senza che lo dica, perché quando lo dicono non è chiaro. Questa cosa servirebbe a Bersani. Vorrei leggerlo. Bene, allora Mariano Madia, poco tempo fa Enrico Letta disse una cosa: è meglio votare è meglio il PDL di Grillo. Lei direbbe la stessa cosa, dopo quello che ha detto Grillo in questi ultimi giorni, eccetera eccetera, ma anche prima di quello che ha detto Grillo dopo questi ultimi giorni? Infatti Enrico Letta lo disse prima, io ero assolutamente d'accordo con lui. Cioè, oggi se lei dovesse votare PDL Grillo, sicuramente voterebbe PDL, sicuramente. Senza dubbio. Capito? Sono cose che fatto di Favia e questi ragazzi del 5 Stelle. Ha sentito Valenzo? Beh, ma è un, noi appunto non diciamo mai 5 Stelle, ma diciamo Grillo. Perché? Perché è un movimento che è fortemente legato a Beppe Grillo, che ha dei modi secondo me antidemocratici, quindi siccome io ancora penso modi antidemocratici, dei modi antidemocratici, sì, cioè sono come dice Bersani fascistoidi, come si violenti, può dire, no? Violenti. La violenza non è soltanto fisica, ci sono tanti modi di essere violenti e certamente Grillo ha un modo violento di fare politica. Dunque lei tra PDL sicuramente d'altra parte fa stare al governo insieme, in questo momento sceglie delle cose insieme, è anche inevitabile, non siamo al governo insieme, cioè sostenete lo stesso governo, diamo fiducia a uno stesso governo. Allora, sottovalutate l'UDC, ragazzi. Che senso, perché sono i 20 minuti buoni, ricordiamoci che sono i 20. Io vorrei chiedere una cosa invece: cosa? Come si fa ad avere la fortuna quando si vota di avere i 20 minuti di Bertolino? Cioè, a urne aperte, io voglio che i 20 minuti siano del Partito Democratico. Allora, lo chiedo ufficialmente. Lo farò, però io sarebbe una cosa. Cioè, noi a rotazione, non ci importa se tu domani sei PDL, Grillo, l'importante è che poi quei 20 minuti di urne aperte in cui tu ti rechi. L'ho visto accasciarsi su un fianco su queste cose, perché le coscienze critiche che lavorano dall'interno non sempre sono cattive, cercano a volte di dare una mano. quando le ascolti, quando poi le ascolti dici vai avanti a fare uguale. Mia madre si incazzava da piccolo quando dice, lei mi diceva guarda che devi fare questo, questo, questo, io dicevo va bene, lo faccio, poi non lo facevo. E allora questa, ci vorrebbe una coscienza critica interna che il PD pian piano comincia ad avere. La coscienza critica. Però voi siete testimoni che Bertolino ha detto che i 20 minuti in cui si recherà alle urne, quando ci saranno le elezioni, saranno i 20 minuti del Partito Democratico. Se anche il Partito Democratico comincia ad allungare qualche mezzo. Stai dichiarando ufficialmente che l'ha dichiarata, i 20 minuti. No, un attimo, io se arrivo al bonifico, io aspetto sempre il bonifico, valuta retrodatata. Beh, ma che c'entra il bonifico? Come che c'entra? Scilipoti cosa ha fatto? Cioè, scusa, non ho capito. Se ma te io pagano, devo pensare al futuro, cioè, con il denaro che si deprezza. Ma non ti posso pagare per andare a votare. Ma tu non sei mica pagare per andare a votare. Ma perché no? Io faccio tendenza, cioè sono trendy nel mio piccolo. Allora, diciamo, non per andare a votare, pagare per dichiarare, diciamo. Se volete che io dichiaro, dovete pagare. Ma tanto poi dopo si sa che l'italiano, gli exit poll sono la dimostrazione chiara che l'italiano è falso di indole. Per cui dice, ha votato quello? Certo, come no, ci mancherebbe. Poi ha votato un altro. Per cui l'exit poll è così. Allora, l'altra, è stata molto chiara la risposta sul PDL e su Grillo. Invece un'altra cosa, Bersani-Renzi alle primarie. Tanto questa sarà la cosa. Lei per chi voterà? Ma intanto aspetto che si ufficializzi questa. Vabbè, Renzi l'ha ufficializzato praticamente oggi. Ha detto il 13, poi bisognerà capire che cosa diranno. Io devo dire, mi sta piacendo molto come Bersani guida il partito da quando è il segretario, quindi tendenzialmente sarei orientata a sostenere Pierluigi Bersani, però se Renzi dice una cosa che poi mi convince ancora di più, perché no? Cioè è incerta allora lei? No, voglio dire, c'è la democrazia interna. Oggi sosterrei Bersani. Oggi voterebbe Bersani. Oggi e cosa deve fare Bersani. Renzi per fare cambiare idea? Le prime anticipazioni su come Renzi farà la campagna delle primarie non mi convincono. Lui dice che la vuole fare su questa camper. Generazione perduta. Il camper. Sul camper andrà, diciamo, a raccogliere la generazione perduta. Che sono i 30-40 anni, io ne faccio parte, quindi sarei naturalmente lì. Però a me pare che oggi in Italia non ci sia una generazione perduta, ma siano tutte perdute le generazioni, perché i ventenni neanche più lo cercano un lavoro, non hanno più slanci e passioni, sono proprio depressi a casa, altro che Berlusconi depresso, sono i ventenni che non hanno prospettive, stanno a casa senza lavorare né studiare, non tutti, ma insomma ci sono delle percentuali altissime. I 30-40 anni sono una generazione perduta che... Vabbè, non è che tutte le generazioni sono perdute, c'è una crisi generale che coinvolge tutti. Gli esodati, diciamo. Le ventenni invece forse... qualche opportunità ce l'hanno. Qualche ventenne? Le ventenne, c'è Miss Italia. Beh, qualcuna sì, però non è che c'è solo Miss Italia. No, sto parafrasando su quello che diceva lei, i ventenni altro che Berlusconi, ma le ventenni invece... Comunque, in questo momento Bersani. In questo momento Bersani. In questo momento Bersani. E che c'è poi? Di chi? Di cosa? No, ci sono i partiti. Mariana Madia è una di quelle che è stata eletta con le liste bloccate, diciamo la verità. Una sorta di miracolata è stata spesso. No, tutti quelli adesso eletti sono... Tutti qua. Però, insomma, scelta direttamente da Veltroni per quello che ha fatto, eccetera, eccetera. Lei vorrebbe essere rieletta con le liste bloccate? Ma mi augurerei di no. Però non lo escludo. Mi augurerei di no, perché le liste bloccate hanno suscitato e suscitano un grande... Cioè lei si è pentita di essere stata eletta con le liste bloccate? Non mi sono pentita perché quella era la legge, quindi no, non c'era altro modo. Lei ha i voti per farsi eleggere, secondo me? Questo non lo so, bisogna a un certo punto però legittimarlo questo consenso, quindi spererei che ci sia una legge che mi consenta di provare a capire. Però siccome si prospetta una legge in cui ci sarà una parte di... Lei è d'accordo col fatto che restino un po' le liste bloccate o no? Io sarei stata per i collegi uninominali secchi, punto. Quella secondo me rimane la miglior legge elettorale. Se però, bisogna sempre vedere da cosa si parte, partendo da tutto bloccato, se a un certo punto il compromesso è un pezzettino bloccato, meglio un pezzettino bloccato di tutto bloccato. D'accordo, e lei vorrebbe rientrare in quelle liste bloccate oppure preferirebbe essere eletta in un altro modo? A me se ci fossero dei collegi, ecco, con le preferenze credo... Cioè lui direbbe no, farcela. Se mi vuole mettere un listino bloccato, no, comunque vuole essere rieletta in Parlamento, questo sicuro. Beh, mi piacerebbe, dato che ho studiato e ho elaborato alcune cose, stando all'opposizione o comunque adesso sostenendo un governo che non è il governo del Partito Democratico, in prospettiva, siccome penso che il prossimo governo sarà un governo politico del Partito Democratico, mi piacerebbe insomma che queste elaborazioni diventassero poi... Io vorrei una bella cosa su Monti da parte di Bertolino. Io ho ricordi fantastici del rettore della Bocconi negli anni in cui frequentavo, per cui... No, l'uomo Monti è inoppugnabile. Poi dopo, lui adesso sta girando con questo cero di Gubbio in mano che gli hanno lasciato. Ogni volta che lo attaccano, lui dice: ragazzi, è qua, se volete. E poi scappano tutti violentemente. E si è circondato di alcune persone, secondo me, validissime, ma che hanno però una lacuna nella comunicazione, perché parlano e non si capisce. Cioè, più di Vendola, per dire, che è un casino. Beh, è un casino, sì. Allora bisognerebbe riuscire probabilmente a trovare una... Le cose che lui deve comunicare sono impopolari, Per la maggior parte delle volte, cioè, l'uomo e riesce ad essere ironico e divertente. L'altro giorno ho visto proprio un filmato dove lui stava parlando e ha sentito una biglia cadere e ha detto: come segnale per dirmi di smettere, è particolarmente efficace. Okay, trovo che c'ha quello humor un po' inglese brillante. So che non era, non so se era una biglia di ferro che gli ha tirato qualcuno, però bisogna anche fare attenzione. Allora, Marianna Madia, l'uomo in linea. Io voglio chiedere a Marianna Madia una cosa, sì, però. Che vuoi chiedere, Parenzo? Perché l'onorevole Marianna Madia ha fatto quelle che noi chiamiamo le cosiddette scuole alte, le Chateaubriand, una delle più grandi scuole italiane, no? Ma si è mai fatta una canna la signora Madia? Dai, ma sì, Maria, sarà fatta la canna. Ma che vuoi sapere? Allora, la verità è no. Vabbè, ma non no, per moralismo, semplicemente perché mia mamma, da quando sono piccola, mi dice: guarda, tu sei figlia mia. Dico sì, mamma, sono figlia tua, lo sapevo. Cioè, tu non sai, io la prima volta mi sono fatta una canna, come mi sono ridotta, stavo malissimo, non capivo più nulla. Quindi secondo me, siccome tu sei figlia mia, non reggi le canne, quindi io ti consiglio di non farlo, perché fa una brutta fine. Lei ha seguito il consiglio, cioè, di sua madre, di solito si fa il contrario, no, esattamente, ma il contrario. Ma terrorizzato, cioè, sei figlia mia, no, non la reggi. Però devo dire che ho avuto tanti amici che... manco una volta. No. E come è entrata nel PD, niente, allora? Questo concetto. Vabbè, che c'è? Non è mica la sinistra quella, eh? Ormai sono tutti impettiti, precisini. Non è che... Però la storia delle canne, ecco, non per moralismo. Ma le legalizzerebbe le droghe leggere? Le legalizzerebbe? No. Ma anche sì. Anche sì. Anche sì. Tassandole. Anche, insomma, e la prostituzione? Tassandole. Questa è una riflessione. Non ho una. Cioè, De Magistris verità, fa non bene ho, o fa male a fare una... queste cose? La verità è che non lo so, però non lo escluderei. No, infatti. Però non questa è una cosa un po'. Non lo escluderei perché nel senso che comunque io sono contro, e penso che ogni donna debba avere la possibilità di fare altre scelte liberamente. Spesso chi vive di prostituzione lo fa non per libera scelta, ma perché è obbligato. La tratta è combattuta, diciamo. Ma non è solo la tratta, è anche non trovare un lavoro, avere difficoltà economiche, essere obbligata a farlo. Quindi tenderei a non volere un paese con la prostituzione. Però mi pare che tutti i metodi che sono stati attuati, gli stessi metodi duri di Alemanno, che aveva detto non ci saranno più prostitute a Roma, dopodiché è tutto sempre uguale. E allora, ma tu quest'estate la Bindi ha fatto un'intervista in cui ha detto che la rinuncia al sesso è stato qualcosa di pesante. Ma perché uno deve, cioè, una persona che dice, un politico, ho rinunciato al sesso, si può occupare di cose che riguardano gli omosessuali, la famiglia, la legalizzazione delle coppie di fatto, eccetera? La vita, sì, se ne può occupare? Prima cosa, perché non è detto che chi rinuncia non l'abbia conosciuto. Poi perché no, la sensibilità è... Rientra anche il sesso solitario in questo, cioè... ecco. No, chiedo a livello statistico. Ma scusi, Bertolino, lei sta dicendo che... Non entro nel merito della cioè, per capire se il microcippara... No, chiedo solo se in questa questa analisi che viene fatta sul sesso, sulla rinuncia al sesso, si parla anche di rinuncia all'onanismo? Beh, no, questo non è stato chiesto alla signora Bindi. Allora, non è stato chiesto. Io volevo solo questo chiarimento. Con riferimento a quello che ha detto la signora Bindi? In generale, un amico mio mi ha chiesto di fare questa domanda. E fai un'interrogazione parlamentare? Fallo fare alla signora Maria. Ma lei porterebbe mai suo figlio in un'aula di Parlamento, come perché è successo a un europarlamentare del PDL, che si è fatta fotografare con un figlio, addirittura che votava a un certo punto? No, non l'ho fatto. Non l'ha fatto, non ha mai sentito bisogno, perché doveva... E ho anche difeso i 3 mesi successivi alla nascita di Francesco. Sono stata a casa ad allattarlo e mi dispiace che molte ragazze della mia generazione non abbiano più questo diritto, perché sono precarie e devono tornare di corsa a lavorare, privandosi di una cosa bellissima, ma che è anche un diritto, insomma, oltre a essere una cosa bellissima. Sì, però insomma, poi non è che non lo possono fare quelle persone che non hanno un lavoro, è normale che... No, cioè... ma anche le ragazze che non hanno il famoso contratto a tempo indeterminato, ma che hanno lavori a progetto, lavorano a partita IVA, ma in realtà sono dipendenti, non hanno più i 3 più 2 mesi, quindi 5 mesi di diritto a stare a casa ad allattare il loro bambino. Che vuoi chiedere di altre cose stupide, Parenzo? La questione del fumo e del sesso sono cose che riguardano la vita e che il nostro rappresentante del popolo deve sapere. I quartieri a luci rosse, ad esempio, non abbiamo approfondito. I quartieri a luci rosse sono una cosa sacrosanta, diciamo la verità. Io credo che l'onorevole Madia sia d'accordo con noi per fare una grande battaglia di libertà parlamentare per l'apertura in tutte le città italiane di almeno un quartiere di case rosse. Ma bisogna legalizzarla. Lei mi ha mandato a... in quel, in quel senso lì? No, sì, sesso, pagamento. No. Ma no, Bertolini, no, siamo andati tutti. No, la cultura dell'oratorio, a me mi ha fottuto la cultura dell'oratorio. Siamo andati perché tutti. Io ho detto che non mi sono mai fatto una canna, allora ma adesso... Ma no, siamo andati tutti. No, grazie, ragazzi, se, se tocchiamo l'altro argomento, laddove il prete ti diceva occhio che diventi cieco, sarei in giro col cane guida. Anche Parenzo l'ha confessato una volta. Anche Parenzo. Però su quella cosa lì di essere andato, non di essere andato facevo, in Svizzera però. No, in Svizzera proprio, però so per certo che c'è una bella organizzazione a livello Canton Ticino. Molto bella. Paghi tasse sui posti letto. Cioè anche il padrone di casa che affitta alle ragazze che esercitano, sì, per cui togliendole anche dalla strada, sì, paga una tassa sul posto letto, per cui c'è un guadagno di chi esercita, un guadagno del padrone del locatario, c'è il guadagno dello Stato, del campione. No, ma io non sono mai andato, questa... Crociere. Parenzo, io ho visto, no, che obbligo confessa, la tessera. Confessa, dai, confessa. No, io sono andato, io una volta per caso, una volta. C'è una targa a Lugano, addirittura cliente del mese, Parenzo. Sì, ma non c'è neanche la patente. A Zurigo, ma perché non è la patente che c'è. Non è che andare a Lugano bisogna avere la patente per forza. Cioè, ma io si va col treno a Lugano. Non avrei nessun problema. Il mitico Maurizio Mosca non aveva la patente, ma era in giro dappertutto, lo trovavi ovunque, prendeva passaggi. Senso? No, non in quel senso lì. Cioè, era il senso che lo trovi, dici, come mai? Lui fa, io non guido, eppure era dappertutto, il grandissimo Maurizio. Maurizio, ci sono tante persone che non hanno la patente, Pannella, sì, sì. Mentana. E che sono appeso degli altri, capito? Andassero a piedi. No, Pannella è taxi, sempre taxi. Ma Parenzo, Mentana, come si sposta, ad esempio? Ha un autista? È un casino, Parenzo, per questo non è riuscito ad arrivare qua. No, chi è autista? Taxi, no, treni. Ha un auto blu? Ho dovuto portare mia figlia dalla Toscana a casa dei miei genitori. Beh, adesso non c'è bisogno che non ci si giustifichi, Parenzo, va bene. Me lo chiedono e io rispondo, scusa. Mi accusate di andare a prostitute e non è vero. No, se mi dite no, ti sei fumato la canna, dico certo, assolutamente sì, questo l'ho fatto. Drogati. Ecco, vabbè, qua. L'ultima domanda di Maria Maria è questa, ma lei è per il, noi siamo per il matrimonio gay, qui alla Zanzara abbiamo fatto una campagna pazzesca per il matrimonio, non per queste cose Maria, piccoline, i diritti. Tutti dicono i diritti, bisogna fare il matrimonio, cioè matrimonio intendo una cosa istituzionale in cui ci sia il matrimonio per gli omosessuali, chiamiamolo in un altro modo, però matrimonio, uno va lì, cioè diritti e doveri, sì, ma però lui, una cosa, poi di fatto questo però è un matrimonio. Che? Ma lei è d'accordo per il matrimonio? Ma io sono d'accordo per un istituto giuridico, come dici tu, vanno sì, in comune dove si vogliono, sposano. Adesso, vabbè, si sposano, intendo, si uniscono, poi, si uniscono e hanno diritti e doveri reciproci, sono assolutamente d'accordo. E perché il Partito Democratico non vuole fare questa ma anche cosa il Partito Democratico ma dice no, questo. Vuole fare un'altra cosa, no, un po'... no, dice assolutamente questo. Cioè tipo in Germania, insomma, una cosa del genere. Sì, ma infatti Bersani l'ha proprio detto, modello tedesco, diritti la e doveri. La Bindi no però, La non Bindi, vuole. E alla fine anche la Bindi, minoranza, ci sono state però, delle polemiche, perché poi qui dipende molto dalla terminologia, ma di fatto questo è un istituto giuridico che regoli i diritti e doveri di due persone che decidono di unirsi, perché si vogliono bene. Ma ci deve essere invece per il governo politico dopo, oppure Monti a Monti nel 2013, sì, no? Monti che farà? Io non so neanche cosa faccio, farà, io figura senso, che so cosa fa Monti. No, Monti che farà, nel senso, è una persona che si può spendere, cioè, per un governo, per... No. Questo davvero... per lei è una persona che non si... Io preferirei un governo interamente politico, però c'ero. Non a caso, insomma, interamente c'ero. Politico di... Ma c'è il cero di Gubbio che gira, sai lì quando si sposta un attimo viene giù la cera calda e quindi chi lo piglia in mano gli si crema la mano, dobbiamo stare attenti, è un cerino che gira, era un cerino inizialmente, adesso è un poi è diventata candela votiva, adesso è un cero di Gubbio, passiamo a quello da processione fra un attimo e là bisogna scappare, no, bisogna essere presenti perché sennò lo piglia in mano qualcuno che lo usa male, quindi meglio sto facendo le parabole, cercate di capire, l'ho capito, quindi meglio che lo prenda l'UDC. Sono i 20 minuti dell'UDC. Però sono passati più di 20 minuti. Sì. Quindi Bertolino è fuori tempo. Ora. Sì, è vero. Il problema è che dopo l'UDC c'è la Lega. Oh, mamma mia. Sono i 20 minuti della Lega. Votato è una cosa Lega? Terribile. No. Bertolino. Hai votato no, la Lega. Sono stato accusato, sono stato riconosciuto come cabarettista comico della Lega perché mi esibivo con la giacca verde. Ma era una giacca verde che era una scommessa fatta con un mio negoziante. Se la metti, te la pago. Conosci la cornamusa bergamasca? Come no? Come no? Si chiama? Baguette. La baguette? Così ha detto quella Bossi. Che ha fatto piangere Bossi? Sì, Bossi dice che bisogna fare dei corsi di a Via Bellerio, ha detto bisogna fare dei corsi, no, l'ho di... vista usare da Davide Van der Sfrost, da uno dei del suo gruppo, e dai Luf, che sono un gruppo della Val Camonica, amici miei. E la zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara che punge e poi se ne va. Si chiama tigre oppure si chiama zezè, ma questo insetto che noia che è, e la zanzara che succhia. Dell'utri, dell'utri, dell'utri. È ancora in casa, Simo. Oh. Antonio Conte, voglio sentire Antonio Conte, quello che mi è successo, una vergogna, uno dei personaggi dell'estate. Antonio Conte contro la giustizia sportiva, sentiamo. È assurdo, è assurdo, e oggi lo posso dire, è assurdo tutto quello che mi è successo. Il popolo juventino, non solo, tutti i tifosi devono sapere quello che mi è stato fatto e quello che mi stanno facendo. Perché è una vergogna. È una vergogna. Non rilassarti mai. Numero uno, numero uno, Gigi da Roma. Buonasera. Buonasera, Giuseppe. Io intanto volevo ringraziarla per la conduzione del suo collega. Quello che quale collega, scusi? Fino a venerdì scorso. Sì. E oltre a questo, le volevo chiedere se... Non capisco perché ringrazia, non capisco perché ringrazia me. Di cosa mi sta ringraziando? Il telefono. Gigi, che dico? Vabbè, non mi sente. Quello che ha fatto la nostra, essendo entrambi nella regione Lazio... Non ho capito niente, scusi. La presidente della regione, che è stata ricoverata a Sant'Andrea. No, non so nulla. Che è successo? No, è successo che... sembra, spero di no, ma sembra che abbia un tumore al seno ed è stata ricoverata a Sant'Andrea e ha fermato 30 posti letto. Ma chi? Ma di chi sta parlando? Un'equipe operatoria. Ma di chi sta parlando, scusi? Di un'informazione che ho avuto tramite internet. Cioè, ma lei sta dicendo che il governatore della regione Lazio ha un tumore, si è ricoverato a Bocca... Polverini. Ma di che stiamo parlando? Cioè, ma siamo una parlando di un'informazione che lei forse non ha. No, ma sicuramente non ho, e comunque non è che dico che una persona è malata senza avere la certezza che sia malata. Prima cosa. Certo. Io lo dico subito, per cui di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che io, ad esempio, ho la mia compagna, mi scusi Giuseppe, io ho la mia compagna, Parenzo, io ho la pensi mia tu, compagna, sì. Ma qui siamo a Follia, posso Giuseppe? Sì, posso? Sì, prego Gigi, sì. Ecco, io ho la mia compagna che ha avuto due operazioni a entrambi i seni. Ma ho capito. E ha dovuto... caro Gigi, detto con tutto... Ma di cosa parliamo? Delle trafile burocratiche... Io sono molto dispiaciuto di quello che le è accaduto. Io sono molto dispiaciuto per quello che le è accaduto. Non voglio, come dire, infierire come facciamo di solito. Certo. Però abbia pazienza. Non è che qui lei ci deve dire ho saputo che il governatore della regione Lazio si è fatto ricoverare perché ha un tumore ed è passata avanti a, occupando 30 posti letto. Invece la mia compagna... Ma di che parliamo, caro Gigi? Di cosa stiamo parlando? Ma se ha avuto dei problemi è giusto che sia stata ricoverata. Ma non lo so, ma non mi interessa. Il punto è che non mi interessa. Non me ne frega nulla, non me ne frega un cazzo di quello che lei mi sta dicendo. Ha capito o no? Io questo lo capisco. E allora, se allora, lei lo deve capire, a me non me ne frega un cazzo di questo discorso qua. La ringrazio, io la seguo sempre e la stimo. Benissimo, ma lei fa benissimo. In ogni caso, sia lei che Parenzo. Ma lei non però mi può venire a raccontare. Le ribadisco che mi piaceva molto più l'altro conduttore. E chi se ne frega? Grazie, Gigi. Massimo dalla provincia. Chi se ne frega? Va benissimo, ma chi se ne frega? Non mi interessa. Cioè, un'altra cosa, un'altra trasmissione. Le piace l'altro conduttore? Benissimo, cioè, una cosa con cui convivo da anni, questa cosa qui, le persone che mi chiamano dicendo è meglio quell'altro, ma quando te ne vai, eccetera, eccetera, ci convivo da anni. Certo. Massimo dalla provincia di Massa, buonasera. Pronto? Dica, signor Massimo. Sì, vabbè, sento, va bene, comunque. No, io sento benissimo. Ok, no. Io volevo soltanto intervenire sul discorso che ha fatto la parlamentare che è intervenuta prima, la Maida, giusto? Madia, Marianna Madia, sì. Madia. Io sono un simpatizzante del Movimento 5 Stelle, non sono iscritto, però sono diversi anni che seguo il blog di Beppe Grillo, e quindi sono un simpatizzante del Movimento 5 Stelle. Mi torna male sentire dire che un parlamentare del PD che piuttosto che votare il Movimento 5 Stelle voterebbe per il PDL, quindi per Berlusconi e compagnia cantando. Sì. Quelli che una volta dovevano essere i due poli antagonisti all'interno del Parlamento. Sì. Quindi ora si è venuto a creare questo strano asse. Quindi quando Grillo dice che il PD non è altro che il PDL meno L, ha ragione, Si è creato questo asse tra PD e PDL, ma è veramente una cosa assurda e non lo so. Poi eletto in un listino bloccato, cioè, ma questa, tutti quanti sono eletti in una lista bloccata, tutti i parlamentari. Per l'amor di Dio, va benissimo il listino bloccato, ci possono mettere tutte le loro belle non pensanti che hanno a disposizione, da chi è stata nominata, da Veltroni, quello che prende 5.000 ma tutti euro sono di stati nominati, tutti sono stati nominati da tutti, caro Massimo. Veltroni non è quello che 5.000 passa euro di pensione essendo soltanto Veltroni la pensione non la prende ancora perché è ancora parlamentare, dunque non la prende ancora. Comunque prenderà la pensione come tanti altri parlamentari. Vergogna, perché le pensioni dei parlamentari dovrebbero essere abolite. Diego dalla Spezia, buonasera. Il vitalizio dei parlamentari va abolito. Diego dalla Spezia, comunque notevolmente ridimensionato. Diego dalla Spezia, buonasera. Buonasera a tutti, anche agli ascoltatori. Praticamente l'intervento che ha fatto l'ascoltatore prima ricalza pari pari quello che volevo dire io. Insomma, mi sembra un po' strano che un deputato del PD dica, affermi, che piuttosto che votare Beppe Grillo voterebbe senza ombra di dubbio il PDL. Ma mi sembra che fino all'anno scorso Berlusconi e il PDL, Cicchito, Schifani e company erano il diavolo, i fascisti, i nazisti di turno. Insomma, questa cosa mi sembra abbastanza ridicola. Adesso il problema è Beppe Grillo e non il PDL. Davanti a questa cosa, scusate, ma lo dico tranquillamente, Beppe Grillo ha ragione, il PD in realtà è il PD meno L. Però scusi Diego, da questo punto di vista sì, do ragione a lei, nel senso che quando comincia a diventare un nemico Beppe Grillo, quando serviva perché attaccava Berlusconi, diciamo che molti lisciavano il pelo, se non a Beppe Grillo magari agli elettori di Beppe Grillo, adesso invece può essere combattuto, o lo si combatte perché intacca una parte dell'elettorato. Ma per conquistare gli elettori qualsiasi mezzo è lecito, quindi era giusto conquistare gli elettori con l'anti-berlusconismo. Altra cosa sono le fregnacce, le volgarità, non le fascisterie, cioè non userei il termine fascisti nei confronti di Grillo, questo assolutamente no. Però voglio dire, è lecito conquistare gli elettori, che devi fare? La politica è così, conquisti gli elettori. Intanto Mentana qualche secondo fa alla 7 avrebbe detto, dopo le bibite Mentana, dopo le bibite gassate... Ma tu sei in conflitto di interessi. Dopo le bibite gassate, perché non tassare anche il maiale? Ma ha ragione, c'è poco da fare. Se andiamo avanti così, tassiamo pure il maiale, la mortazza, la mortadella, tassiamo pure la mortadella, perché fa bene la mortadella? No, fa malissimo. Eppure qui davanti ho i miei tecnici bravissimi che ci hanno aiutato ad andare in diretta oggi, Davide Ciocia e Michele Previato, i quali si mangiano montagne di mortadella così, cioè vanno avanti a pane e mortadella. Non è così naturalmente, però mangiano la mortadella iosa e allora tassiamo pure la mortadella, no? Comunque, oggi c'è stata una cosa importantissima, lo dico e non è una marchetta, perché Vedrò ha ospitato il bravissimo Bernabé, che è una persona, veramente una persona per bene. Ma sei in conflitto di interesse, non rompere le scatole, lavori per la 7, stai lisciando il pelo al tuo padrone, smettila. Se fosse stato il nostro ospite oggi, sai qual è la domanda che avrei fatto io a Bernabé? Ma l'avrei fatta proprio tranquillamente, proprio il vero giornalismo. Comunque qualcuno mi segnala, stai zitto un attimo su Bernabé, non parlare. Qualcuno mi segnala che in realtà la notizia della Polverini, diciamo quello che ci ha detto prima l'ascoltatore, in realtà è presente su un sito di un giornale, credo il Manifesto. Quando a governare la Silvio Berlusconi ha tagliato senza fiatare ben 24 ospedali e 2.900 posti letti in tutta la regione, salvo poi prendere un intero reparto ospedaliero tutto per sé quando ha avuto bisogno di un piccolo intervento chirurgico. E la stessa cosa avrebbe fatto un reparto d'ospedale solo per Polverini. Questo leggo su una cosa che mi ha mandato un ascoltatore via tweet. Comunque bisognerebbe sapere, primo, se è vero, secondo, perché cosa si è ricoverata, eccetera eccetera. Fra poco un grande ospite alla Zanzara, di quelli indimenticabili, caro Parenzo. Indimenticabili. Diego da Roma, buonasera. Diego? Diego, mi sente? Niente. Stefano dalla provincia di Bergamo. Buonasera. Vada, vada, si tolga buonasera, la viva voce. Si allora tolga io volevo fare un appello alla signorina Selvaggia che c'era prima. Che se dovesse restare da sola al mondo con Bersani e Berlusconi, faccia dell'autoerotismo perché preferisco l'estinzione. Al di là di quello, mi spiace. No, non ho capito. Scusi un attimo, se lei dovesse rimanere solo con Bersani e Berlusconi, beh, è difficile perché anche che potete letto... mettere al mondo qualcuno. Scusi, abbia pazienza. Piuttosto è meglio lasciar perdere, perché se dobbiamo nascere con una generazione o da uno o dall'altro per il futuro, è meglio che ci estinguiamo. Vabbè, non esageriamo, su, non esageriamo. Vabbè, no, comunque. Io però avevo chiamato perché non sento mai nessuno fare un po' di mea culpa, perché alla fine la classe dirigente che da 30 anni il disastro ci hanno portato dove siamo, l'abbiamo letta noi, gli italiani, e dovremmo fare un po' di mea culpa e cambiare dalle prossime elezioni, da qualcosa in qualcosa di diverso, in qualcosa di scegliendo le persone. Però se il centrodestra ha governato male, io sono un elettore del centrodestra, e in parte mi pento, perché ritengo di essere colpevole della situazione che c'è oggi. Perché sono andato nella mia bella urna, ho fatto la mia bella croce e mi andare. Bravo, ogni tanto un po' di mea culpa è, non è che la classe politica nasce dal nulla, non è che la inefficienza, l'inettitudine della classe politica, di gran parte della classe politica, nasce così dal cervello dei politici, nasce dal fatto che spesso hanno seguito quello che gli italiani volevano fare, cioè difendere spesso i piccoli interessi, le piccole corporazioni, farsi i cazzi loro. Rosanna da Imperia, buonasera. Rosanna? Buonasera Cruciani. Dica. Io telefono intanto per essere solidale con Bertolino, visto che siamo interisti. Perché solidale con Bertolino? Cioè, mica c'è da essere. Siamo interisti. Per cui abbiamo le stesse sensazioni. Sì, poi. Nel bene e nel male. È tipo quando abbiamo perso, abbiamo. E quando abbiamo vinto. Tutto lì. Vabbè, poi. No. E poi volevo dire alla signora che sta nel partito di Bersani che i migliori amici miei, io ci ho fatto le canne e li ho persi per altri motivi, perché sono morti di altre cose. Quindi non bisogna vergognarsi di aversi fatto una canna negli anni che furono. Ho capito, e cara Rosanna, ma se lei dice... Bersani ha degli amici che si chiamano Pedati, Irvolino e altri. Che c'entra? E il signor anche Errani. Queste cose qua bisogna dirle, no? Che ce ma perché che ha fatto Errani? Scusi, che ha fatto Errani? Che ha fatto la Iervolino? È indagato, che è indagato, e allora? E allora sono tutti colpevoli. Tutti colpevoli, benissimo, tutti colpevoli. Tutti colpevoli. Ma stia zitta, sì. Rosana, non dica stupidaggini, su. Tutti colpevoli, su. Mi scusi un po', ma lei... Visto che per le bibite si incazza tanto perché gliele aumentano. Ah no, mi incazzo tanto. Ho detto che hai sbagliato mettere una tassa sulle bibite cassate. Che non vince nessuno sto giro alle votazioni. Questa volta qui gli italiani si renderanno conto di che gente c'è al mondo. No, di che signora, gente abbiamo in Italia. Vuoi intervenire o no, Parenzo? Signora, è la prima ambulanza della stagione settembre 2012-2013. Se ci dà esattamente le coordinate, arriviamo. Sì. E venga pure, Parenzo, così le faccio vedere la realtà. Ecco, ma che realtà? Ma la realtà della gente che si è venuta in questo pacco di paese. Facciamo vedere la bella lettiga dell'ospedale. Rosanna, lei che fa di mestiere, signora Rosanna? L'operaia agricola. L'operaia agricola che vuol dire? Vuol dire che lavora in campagna da una vita. E ho visto in Liguria... quello che si è perso in questi anni per colpa dei signori che hanno costruito a destra e a manca. Noi non siamo più primi né nei fiori né abbiamo venduto tutto all'Olanda, a essere nel mondo, mentre eravamo i primi una volta a Sanremo. Adesso siamo solo dei poveracci, perché abbiamo gente come Scaiola che non sa che gli hanno comprato la casa. Cambiano tante cose. Per il resto, guardi, ringrazio il Signore che non abbiamo ancora le bombe, solo per quello. Le bombe. Però guardi, in generale, c'ho il volta stomaco. Volta stomaco, vabbè. Rosanna, la ringrazio. Grande ospite, sigla. Cuccare, non cuccare, diremmo universale. Cuccare, non cuccare, diremmo universale. Istinto naturale del maschio nazionale. La notizia, caro Parenzo, la notizia è questa. Davide il Vichingo si è messo, si vuole mettere a fare politica dall'Isola dei Famosi, dalle spiagge di Rimini, dal manuale del cuccatore, eccetera, eccetera, non so come diavolo si chiama, alla politica con un suo movimento, il pronipote acquisito di Benito Mussolini. Davide, buonasera. Buonasera, bentornato signor Cruciani, bentornato Parenzo, siete stati in vacanza. Io mi sono rilassato. Ma che rilassato? Parenzo, allora hai capito? Rilassato di cosa? Fa un cazzo tutto il giorno, sono rilassato. E lì, cucare, non cucare, il maschio naturale. Ma di che parla? Rilassato. Ma rilassato quello che non fa un cazzo, per forza rilassato. Cucare, ma non no, cucare. Ma... cucare, non cucare. Rilassato ce l'ha detto a noi, veramente, istinto se siamo rilassati. Istinto naturale del maschio, ma che roba? Istinto. Ma se il Duce, se... guarda, se io mi tocca, mi devo mettere a difendere il Duce. Ma se quel signore lì, che fa tanti danni all'Italia, tra i tanti danni che ha fatto, ha lasciato in eredità anche il Vichingo. Ti rendi conto? Tra i tanti danni. Ma guarda che qualcuno dice che non è vero che è il pronipote del Duce, Ma io mi auguro una smentita. Il Duce non può smentire. Siamo in navigazione, ci siamo spiaggiati adesso, stiamo montando la tenda. Ma siamo chi? E con la mia imbarcazione, il Santa Maria, siamo partiti sabato da Milano Marittima, dalla spiaggia di Milano Marittima, e siamo in direzione ad Ancona, dove venerdì 31 agosto avremo la conferenza stampa del partito Pirata Lavoro e Rispetto alle 11 davanti alla portella Santa Maria della Dogana. Ma di che stiamo parlando, Parenzo? Ma cosa sta dicendo? C'è il partito Pirati Lavoro e Rispetto, ma scusi però. Pirata Lavoro e Rispetto si rifà al partito internazionale nato in Svezia, il partito pirata svedese, sì. E in Germania l'anno dopo è nato in Germania il Piraten Partei, che è il terzo partito in Germania, e a giugno mi ha dato la bandiera del Piraten Partei a Monaco, con simbolo, e in poche parole è una continuazione, perché il partito pirata è internazionale, sì. E riporta i valori dell'internazionale, del partito pirata internazionale di Praga, che è stato internazionale a giugno, e ora c'è anche in Italia. Ma di cosa parla? Ma chi pirati? Ma che film ha visto? Vichingo? Ci sento male, perché mi sposto un po', perché qua ci sono le onde, c'è un po' di vento, perché stiamo montando la tenda. Ma che onde? Ma devono portare in un reparto immediatamente, e mettere una flebo subito, una mascherina. Equipaggio, Gianluca Conti, sì. Geronimo Lossardo e sì. Danny Arien Costa. Questo sarebbe, sono i fondatori del partito pirata, del partito pirata, com'è, Rispetto e Lavoro, com'è che si chiama? No, Lavoro e Rispetto. Ah, scusi, sì. Lavoro e Rispetto. Abbiamo sì, anche, oltre la bandiera, che si fa il simbolo internazionale, ripeto, del partito pirata, e in più abbiamo la fiaccola della speranza che noi accendiamo in ogni porto dove arriviamo. Ma scusi, adesso i punti del programma al porto di Ancona. Certo. I punti del programma del partito pirata Lavoro e Rispetto, adesso, guidato da Davide il Vichingo. No, quali sarebbe il punto principale? Qual è? No. Prima di tutto il rispetto incondizionato dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Costituzione italiana, che sono messi sotto i piedi dai nostri rappresentanti della politica italiana. L'articolo 1 e l'articolo 4 dicono, sì, ma andiamo al concreto, scusi Davide Pichino, al di là del rispetto per l'articolo 1 ma che dice? inoltre la cosa importantissima è che bisogna assolutamente mettere in chiaro una cosa? Che chi sbaglia deve pagare. Prima regola del comando è colpa tua. Questo è il punto 1 del programma del partito pirata Lavoro e Rispetto. Quindi se tu comandi sei responsabile se le cose non vanno bene, non è che scappi e dai in mano a un governo provvisorio, a un governo di tecnici quello che non va da sistemare in Italia e farlo pagare ai lavoratori italiani. Bisogna sempre con queste porcherie. Prima regola del comando è sempre colpa tua. Poi c'è il secondo punto del partito pirata. No, guardi, la prima regola è che lei è un pirla. Seconda regola del comando, niente ti appartiene. Niente ti appartiene. Ma che vuol dire niente ti appartiene? Servitore del popolo. Questo è il secondo punto. Il terzo punto, mi rifaccio ma niente ti appartiene, che vuol dire? Mi rifaccio a un maestro, a Beppe Grillo. Faremo i tribunali popolari. Costringeremo i politici a ridare quello che ci hanno rubato. Beh, questo l'ha già detto Beppe Grillo. Scusa. E una volta chiesto scusa, sì, decideremo quale lavoro socialmente utile fargli fare. Hai questo capito, Parezzo? I punti del partito pirata, il lavoro e rispetto. Cuccare, non cuccare, cuccare, non cuccare, diremmo universale. Cuccare, non cuccare, diremmo universale. Istinto naturale del maschio nazionale. Ebbene, abbiamo saputo dal vichingo, caro Parezzo, quali sono i punti fondamentali del programma del partito Pirati, Lavoro e Rispetto, hai capito? Pirati, no, guarda, se non è, spero che sia una roba inventata, perché sennò è la tragedia, la farsa si trasforma in tragedia proprio, perché avere anche il vichingo tra i coglioni in una campagna elettorale col suo pedalò che ti dice primo il rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, manco fosse Ciro Slabini, Zagrebelsky o uno di questi qui, ma di che parliamo? Vichingo, su, continua a dare lezioni di come si cucca delle spiagge e la roba dei coglioni con la politica pure tu, su! Vichingo! Basta bugie, basta dire che i cittadini non hanno voglia di fare certi lavori, basta bugie, dire che i cittadini sono bamboccioni, questa è una vergogna raccontare queste bugie, sia a destra che a sinistra, basta dire che i giovani sono degli ubriaconi o dei perditempo, basta dire che i giovani cittadini non hanno voglia di lavorare, bisogna guardare in faccia la realtà e essere decisi. Con le tasse che aumentano sempre di più si uccide l'economia in questo paese. Ma come, e cosa succede? Che prima o poi i responsabili dovranno pagare per questi misfatti. È il partito non dei pirati, si chiama Partito Pirata. Andate a vedere cosa trovate, Partito Pirata Internazionale, Partito Pirata Lavoro e Rispetto in Italia. È nato il 25 agosto 2012 a Milano Marittima. È partito con la prima imbarcazione del Partito Pirata che si chiama Santa Maria e in questo momento sarà Santa Maria. Con quattro pirati di equipaggio si trova a Misano Adriatico. Questi sono i fatti. Questi sono i fatti. Non parole, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Faccia una cosa, vichingo, faccia una cosa utile. Vi si è intasato nel lavandino del bagno. Venga qui, studi il lavandino, comincia a applicare l'articolo 1, che è quello di non rompere i coglioni e fare delle robe utili per il paese. Anziché con quel pedalò lì girare per Milano Marittima con la bandiera. Dicendo, no, noi ci presentiamo, ma di che parla, vichingo? Stefano da Pisa, il cervello sta roba del vichingo. Ma pure il Corriere della Sera ha fatto un mezzo articolo, un trafiletto. Il Corriere della Sera, vichingo, basta di prendere. Passo Gianluca Conti, uno degli equipaggi. No, ma quale equipaggio? Signor Conti, Gianluca Conti, tattico velista dell'equipaggio. Ciao, ma tattico velista cosa? Ho un problema al mio, al come si dice, con lo scovolino del bagno. Sì. Fa lo scovolino del bagno, non va giù la carta. Pronto? Sì, ha capito. Cioè, Parezzo, ha un problema allo scolo del bagno. Ancora no, sta parlando. Niente, no, non sente. Stefano da Pisa, buonasera. Sì, buonasera a voi. Solo una critica. Cioè, quando qualcuno telefona e esprime la propria opinione, non capisco perché, se non è d'accordo con voi, non è in linea con voi. Ma chi l'ha detto? Lo dico io, perché vi ascolto spesso. Voi lo criticate. Ma non è vero, ma non è vero per niente. Ma non interrompe un attimino, fammi finire e poi dici la tua, la dici sempre. Dicevo, fatelo intervenire, fateli dire la sua, punto e basta. Invece mettete l'ambulanza di sottofondo. Cioè, ma dipende, dopo un po' mettiamo l'ambulanza, abbia pazienza. Sì, va bene, Stefano. Però quello, il momento è quello che è. La gente magari esprime la sua opinione, chi la esprime in modo giusto, poi uno può essere d'accordo o meno, però lasciateli dire, no? Uno dice, poi... Noi la lasciamo dire, a parte che noi facciamo quello che ci pare, primo. Secondo, è semplicemente un appunto. Poi voi dovete continuare a fare cosa vi pare, a me cosa vale me ne freghi. Solo che dico, se c'è una trasmissione che permette a qualcuno di intervenire, lasciatelo intervenire, fatevi dire la sua, poi magari ho capito, ma lei sta intervenendo per adesso tranquillamente, cioè sta dicendo la sua, noi facciamo intervenire, dopodiché dipende anche da quello che uno dice. Vi saluto subito, per la moglie, non vi voglio disturbare. No, ma dipende da quello che uno dice, Stefano, dipende da quello che uno dice. Lo capisco, però, voglio dire, lasciatelo dire, mettete l'ambulanza in sottofondo, qui ce ne vorrebbe un al secondo se si sta a vedere i matti e c'è a giro, capito? Appunto, dico. Claudio D'Ancona, grazie Stefano. Claudio. Sì. Io voglio ribadire quello che ha appena detto questo ascoltatore, perché vi ho inteso quanto avete risposto a quel signore che ha telefonato da Roma. Si vede subito il cambiamento della trasmissione che c'è stato, dalla conduzione fatta da un suo collega pochi giorni fa a quello che state facendo oggi voi. Sì. Dal Parenzo che si comporta come un giullare nei suoi confronti, e lei che sempre si è dimostrato nella maggior parte dei casi, ogni volta che lo sento, per come tratta i suoi interlocutori, un cafone, ineducato, zotico, sì, un insolente, un, sì, arrogante ed un saccente. E qui la saluto. Benissimo. Bene, grazie Claudio. Si è sfogato, signor Claudio D'Ancona. Un bello sfogo, Claudio? Bravo. Soddisfatto? Soddisfatto di questo sfogo? Ha messo pure giù. Bravo, la gente si sfoga, chiama e si sfoga. Sei un capone, saccente, maleducato. Marco da Como. Buonasera. Dica. Il Movimento 5 Stelle è un partito incomodato d'uso, perché quando serviva Berlusconi per far cadere Prodi andavano bene i vaffanculo dei. Adesso sento dire una democratica che... Beh, non è che Prodi è caduto, non è che Prodi è caduto per i vaffanculo dei. Gli ha dato una bella spinta, diciamo, a questo odio della politica tutti i giorni, e ne parlavano pure Vespa, quindi si è capito che andava bene. E poi, ritornando alla prima delle vacanze, volevo farvi veramente tanti complimenti per l'intervista a Valeria Marini, l'ultima che avete mandato. Ciao, un capolavoro, un capolavoro vero. Grazie. Diego da Roma, c'è o non c'è questo Diego? Eccolo. Vada. Buonasera, Diego, veloce, lo dobbiamo chiudere. Buonasera. Buonasera. Sì. Una cosa al volo, dalla Coca-Cola passando ai Red Light District di Amsterdam. Red Light District, sì. Ma con questi pseudoli e passando anche per i filtri... Dobbiamo cantoro... chiudere, a domani. Vichingo? Vichingo è morto. A domani, 18:30, la Zanzara, 18 anzi, che 18:30, 18, sempre qui da Vedrò, a domani. Un uomo italiano che salverei in questo momento, attenzione, è Giuseppe Crusani. Chi? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.